American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Carissimi amici di Runtime Radio e soprattutto carissimi amici di Quando eravamo futuro, si chiama questo, mi pare, il programma. Sono sicuro, ho già troppe cose, quindi troppa confusione in me in questo momento. Sono nel corpo di Quando eravamo futuro in questo momento, me ne devo ricordare assolutamente. Benvenuti qui su Runtime Radio, come al solito, insomma, quasi tutti i giovedì alle ore 21.30 con il vostro programma che vi porta indietro nel tempo e che sta rispondendo sempre più piacevoli feedback, tipo Super Podcast. Qualcuno ha scritto da qualche parte Super Podcast ed è molto bello. Tra l'altro abbiamo un messaggio che ci è arrivato relativo a un ricordo della puntata scorsa sul Subbuteo, che dopo andiamo a leggere con calma. Prima ovviamente presentiamo i nostri amici, insomma, con i quali facciamo questa bellissima puntata, iniziando da Davide Gatti. Non c'è Davide Gatti, mi sa che non c'è Davide Gatti, perché stasera gli hanno detto sanà mangiare un hamburger e lui ha detto quando eravamo futuro o un hamburger. È stata ardua la scelta, mi pare che non è che ci ha messo tanto a decidere cosa fare. E quindi c'è Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, salutiamo anche Davide, che è giustamente impegnato nelle cene prenatalizie. Questo inizia il periodo sì, brutto. Poi oramai lui è diventato un personaggio pubblico. Gli amici, i cugini, personaggio pubblico, non esageriamo. È diventato un personaggio pubblico oramai, ce lo vedono, lo cercano. Se tu vedi nella chat di Survival Hacking, entrano 10-15 persone al giorno, cioè, nel senso, 20, 60. Esatto, una cosa che poi, insomma, sono belle cose che comunque ci fanno piacere. E invece abbiamo un uomo che è un po' di là e un po' di qua. Ma non capite male, nel senso geografico, lui si sposta sempre in transito nel buffer del teletrasporto, Roberto Tomaiuolo. Sì, ciao a tutti, purtroppo anch'io volevo l'hamburger, ma nessuno me l'ha offerto stasera, quindi sono qui con voi, che devo fare? Vabbè, c'è sempre Just Eat, no? Non c'è Just Eat lì dove ti trovi tu? Un servizio similare, dai, si chiamerà Just Eat. E va bene, ragazzi. Invece di le patatine fritte, le pommes frites. Buone. Beh, dai, comunque. Buone. In Belgio. Bisogna dire, qui a Monterotondo sta un posto dove fanno le patatine. Era nato come patatineria, cioè faceva solo le patatine con una marea infinita di salse e anche di versioni delle patatine, ovviamente proprio partendo da sta cosa delle patatine belghe. Quindi, insomma, evidentemente devono essere famose queste patatine belghe. O belgi. Più che altro loro dicono che le hanno inventate loro. E i francesi dicono no. E sono scoppiate delle guerre, poi chiaramente. Insomma, forse è stato. Ma penso, Roberto, se tu vai in giro lì in Belgio, chiedi a qualcuno se i francesi hanno inventato patatine fritte, cosa ti dicono? Dicono di no, ma non le hanno inventate. C'è una lunga storia, magari una puntata apposita, perché no, puntata sulle patatine fritte, sì, e sulla patatine. Zuppa di cipolla. La zuppa di cipolla chi l'ha inventata? I francesi, no? Però è probabile, se tu vai in alcune regioni italiane ti dicono che la zuppa di cipolla l'hanno inventata nella regione italiana, insomma, quindi nessuno saprà mai. Insomma, ragazzi, se andate nella nostra chat privata c'è un messaggio un po' più lungo del solito, però se qualcuno lo vuole leggere è carino, sempre relativo al Subbuteo, quindi è un ricordo, perché questa cosa del Subbuteo, ho visto che l'angolo della posta, dai, l'angolo della posta, ci scrive, lo facciamo, scrive subito, come subito, sì, allora ci scrive Morgan. Okay, quindi ciao Morgan che tra l'altro noi facciamo il cantante, no, il famoso cantante, esatto il cantante, è lui Morgan, è lui. No, noi facciamo l'angolo della posta prima, perché così non ce ne dimentichiamo dopo, capito? Esatto, giustamente. Infatti, io poi soprattutto già me sono dimenticato, quindi prego, vada. Quindi cosa faccio? Leggo io? Uno dei due, sì, uno dei voi due. Se lo leggo io, leggi tu. fai la voce impostata, per fai. Allora, faccio la voce nel posto. Ci scrive il nostro amico con un ricordo relativo alla scorsa puntata. Nella scorsa puntata, ricordiamo, abbiamo parlato del Subbuteo, questo fantastico gioco così amato dal nostro Simone, a cui abbiamo dedicato un'intera puntata. Beh, a quanto dice, pare non solo a me, cioè, vuoi dire, quindi evidentemente alla gente. No. Certo, negli anni '80 eravamo un gruppo di amici che organizzavano il torneo di Natale. Io sono sempre stata una schiappa e mai vinto, non è scritto molto bene, scusate, quindi e mai vinto nessun trofeo di Natale. Quindi io sono sempre stato una schiappa e non ho mai vinto nessun trofeo di Natale. Tra gli amici precisino c'era, pure nella posta, ragazzi. Tra gli amici c'era un ragazzo che chiamerò Ciro, con piccoli problemi di disabilità, e tutti, chi più chi meno, cercavamo di favorire senza infierire troppo anche i più abili del gioco durante le partite. Quell'anno, come per miracolo, culo tra parentesi, riuscì a vincere tutte le semifinali battendo anche i super campioni. La vigilia di Natale si giocava la super finale tra me e Ciro, l'aria era elettrica e la partita si svolse con grande passione. Per tutto l'incontro cercai di giocare bene, ma per favorirlo talvolta sbagliavo dei tiri in porta. Si arrivò al termine dei 90 minuti al pareggio di 4-4 e quindi alla lotteria dei rigori. Tutti gli amici mi davano gomitate, segnali, occhi per convincermi a lasciar vincere Ciro. Sono sempre stata una persona corretta, ma in quel momento mi infuocò il fuoco sacro dell'agonismo. Iniziai a insaccare rigori come non ci fosse un domani, senza guardare in faccia nessuno. Ma è anche giusto. Con la bavetta alla bocca. E alla fine la partita si concluse 5-10 per me. E per la prima volta strinsi tra le mani la Coppa di Natale urlando di gioia, anche se purtroppo a discapito di Ciro. Anzi, in faccia, gli era sbattuta in faccia. Gli era sbattuta in faccia. Un ricordo che dal tepore della dolcezza di certi momenti di spensieratezza e amicizia si colora dell'amaro di aver ferito un amico che tra l'altro oggi non è più tra noi. È una storia tristissima. Lassù, esatto, avrà saputo perdonarmi. Okay, va bene, una storia triste, ma io non l'ho perdonato comunque. Pure secondo me, tra l'altro, lo sta guardando. Ti ricorda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo quando c'era Giovanni? Il bambino che giocava a braccio di ferro e continuava a battere. No, io devo dire che le cose come il Subbuteo, in particolare della nostra generazione, che magari abbiamo avuto proprio un legame fisico con le cose, alla fine comunque coincidono spesso con dei ricordi anche molto personali, no? Molto intimi, no? In qualche maniera. E questo, insomma, non fa da meno, è carino. Poi che noi magari ci scherziamo anche un po' sopra, è un po' nell'indole. Però, insomma, vabbè, dai, deve essere un bel ricordo. Sappi comunque, caro Morgan, che se la notte ti senti tirare i piedi, sai, insomma, il perché. Insomma, sai chi è. Non sai con chi prendertela, insomma, tutto sommato. Va bene, invece questa puntata è la puntata dedicata, anzi, diciamo, allora, che, spieghiamo l'antefatto e poi ti lascio la parola. L'antefatto è che Carlo voleva fare la puntata sulle sigle degli anni 70 e 80 e si è presentato con un documento di 6 pagine fatte solo di titoli. Io ho detto: Carlo, guarda, non si può fare la puntata così. Ma perché infatti l'avevamo divisa in 3, esatto, solo che poi ci siamo, esatto, dimenticati che era divisa in 3. Vabbè, ma questo è un altro problema. Ah, okay. Quindi siamo partiti che già l'avevamo divisa ma ce ne eravamo dimenticati, questo vorresti dire? Sì, in pratica abbiamo diviso, infatti già nel documento dell'epoca c'era scritto prima puntata, seconda puntata, terza puntata, no? Abbiamo fatto la prima puntata, che andrete tutti a recuperare, che era Vai con la sigla, le sigle dei film, quindi abbiamo, sì, fatto la puntata colonne sonore cinematografiche nella prima stagione, era quindi era roba della, sì, Prams, che era la prima di 3 puntate, era una serie di 3 puntate dove la prima puntata era le sigle dei film, colonne sonore, la seconda puntata, che è quella che facciamo oggi, le sigle dei telefilm, delle serie TV, e la terza puntata le sigle dei cartoni animati non robotici, perché in realtà la puntata sulle sigle dei cartoni dei robot l'abbiamo già fatta all'inizio, ok? Quindi in realtà abbiamo già fatto 2 puntate sulle sigle, una puntata sulle sigle dei cartoni robotici, quindi le sigle dei robot, una puntata delle colonne sonore cinematografiche, che oltretutto quella puntata lì non siamo neanche arrivati alla fine del documento, ma poi ci siamo pure dimenticati quella, però va bene. andiamo avanti per la nostra strada. Esatto. Esatto, e questa puntata, che sarebbe la seconda puntata, il secondo episodio dedicato alle sigle, dove parleremo delle sigle dei telefilm, come li chiamavamo negli anni 70-80, perché ricordiamo che adesso... Non è che ce li chiamavamo noi, si diceva così. Sì, infatti adesso li chiamiamo tutti serie TV, ma in realtà telefilm erano... Le serie TV, quindi non li chiamiamo più telefilm. Sono quelle cose che ogni tanto cambiano. Io francamente non so come mai succeda a volte che si cambiano i termini. Un altro, per esempio, copiato dall'inglese. Ho capito che è copiato dall'inglese, ma anche prima, cioè, avevamo la parola telefilm, perché a un certo punto abbiamo iniziato a usare. Però è copiato dall'inglese, però giustamente. Cioè, la precisazione di Roberto è corretta, però in effetti la definizione inglese è più coerente, più corretta rispetto a telefilm, che di per sé non significa niente. Invece serie televisiva significa comunque un prodotto in serie, e quindi in serie, che, e quindi da lì ci sta. Noi invece telefilm, in realtà, se proprio dobbiamo fare una precisazione, il telefilm in teoria sarebbe il film per la TV, che esistevano anche quelli una volta, ma non li chiamavamo telefilm, ma li chiamavamo film per la TV, quindi, esatto. E li chiamiamo ancora così, quindi siamo noi che facciamo. Neanche a farlo apposta, ho avuto una discussione qualche minuto fa con un amico, tra l'altro un importante avvocato, che si lamentava del fatto che stiamo abbandonando molte parole italiane o latine. La lingua è viva, le cose cambiano, il mondo sta diventando piccolo, sono cose normali. Discorso ci sta, anche se devo dire che a volte quando facciamo disordini informati e leggiamo a volte alcuni sunti di alcuni articoli, mi rendo conto che spesso e volentieri all'interno dello stesso articolo vengono utilizzati, non dico impropriamente, ma spesso e volentieri inutilmente, alcuni termini che sarebbe più semplice tra l'altro rendere in italiano, perché a volte si va proprio a impidocchiare per anche una regione di moda, no? Cioè, se la tirano, quello, esatto. Sì, ma io non stavo negando il fatto che la lingua cambi e si evolva, e questo è logico. Io, come al solito, mi chiedo il perché succedono certe cose, cioè perché a un certo punto da telefilm abbiamo smesso di dire telefilm, abbiamo iniziato a dire serie TV. Simone ha dato una motivazione più corretta, nel senso che ha detto che è più giusto, cioè si è trovata una definizione più corretta e ci può stare. Ma io non ci credo che sia quello il motivo, però io secondo me sì, perché comunque, come dici tu, nel mondo che diventa più piccolo, nell'avere maggiore contatto con l'esterno, comunque alla fine ti rendi conto che determinate terminologie che noi utilizzavamo erano semplicemente sbagliate o a volte approssimative, inventate da noi. Cioè, noi nella televisione per 40 anni abbiamo utilizzato una serie di terminologie che non erano appropriate, che però a noi ci stavano bene, perché in realtà erano una semplificazione, insomma. Quindi, sai, vai a spiegare a una persona degli anni 70 che si chiamavano serie televisive, capito? Cioè, era un po'... Prego. Ma anche qui se ne frega, comunque andiamo avanti. Sì, stiamo facendo un'altra puntata. Ma sì, dai, ogni tanto è bello divagare. La puntata sull'esperanto anche una volta. Comunque questa puntata sarà una puntata in realtà dove parliamo poco e ascoltiamo tanto, perché i ricordi, come è stata la puntata delle sigle televisive e delle sigle cinematografiche, scusate, molto fa il ricordo che suscita questa, sentire queste canzoni in noi, e quello che i momenti che ci ricordano della nostra vita, perché noi alla fine abbiamo vissuto da ragazzi, da teenager, da bambini tutti quegli anni, e quindi queste cose hanno segnato, queste sigle, queste canzoni hanno segnato un po' la nostra vita e vari momenti, diciamo, della nostra vita. Non fanno più le sigle di una volta, cominciamo anche la polemica solita. Non sono più le mezze stagioni, e si sta meglio quando si sta peggio. Comunque okay. Gianluca in chat è d'accordo con Roberto, ma infatti chi se ne frega, vabbè, insomma. Allora riduciamo tutto a chi se ne frega, la nostra funzione culturale di divulgazione ne viene meno, insomma, diciamo così. La prossima volta che sentite Roberto è anche di quello Se ne frega. Se ne frega. La prossima volta che sentite e vedete un video su archeologia videoludica, di archeologia informatica, di Roberto Tomaiuolo che vi spiega del computer analogico, voi chiudete, ma finalmente se ne frega, cioè, scusa. E le cose buone e giuste, infatti mi chiedo chi mai possa essere così masochista. Eppure, eppure, no. Cioè, nonostante, prego. Qualcuno c'è. Prego, prego, prego. Comunque, la visione che ho dato, l'ordine non è un ordine cronologico, non è un ordine di qualche tipo, diciamo, scientifico, ma è semplicemente, ho cercato di dare. Quindi non è un ordine. È un ordine del, diciamo, dettato più dal cuore, dalla sensazione del momento. A cazzo, non, a cazzo, in italiano si dice il famoso ad mentula canis, ma quello guarda che il dottor Cazzo, scritto Cazzo, è stato uno scienziato tedesco famosissimo che ha inventato questo metodo, il metodo cazzo. Si dice alla cazzo, che è fondamentale nell'esecuzione di determinati lavori. Quindi quando tu fai una cosa alla cazzo, la stai facendo bene, seguendo il metodo del dottor Cazzo. Quindi ritorniamo alla nostra puntata. Allora, come ho messo come prima sigla? Ho messo una sigla di un telefilm che però è in realtà una sitcom. Poi la differenza tra sitcom, telefilm, serie TV la lascio agli esperti, come Simone Pizzi ce la può spiegare in maniera egregia. Ma scusa, mica si chiamava sitcom all'epoca. No, se no, infatti, noi era sempre telefilm. Tutto telefilm. Vabbè, comunque sitcom è semplice, situation comedy, cioè in realtà, però noi non l'abbiamo, cioè noi sitcom, questa è proprio una cosa che abbiamo imparato nell'ultimo decennio, se no, insomma. Sì. Se qua l'hai tranciata subito, vabbè, è morta così. No, sta sotto. Ma è tutto uguale, dai. Sta sotto. Vabbè, alcune canzoni magari le sentiamo. Ok, allora aspetta, va. Proprio rock and roll dannato. Rock and roll with all my friends. Open the music never ends. Va bene. Oh, vedi, no, va bene. Comunque, sì, era giusto per fare un po' di musica. Allora, fatto bene. Allora, 70. Happy Days è una serie che va dal 74 all'84 negli Stati Uniti, quindi dura 10 anni, ragazzi. E in Italia esce nel 77 e finisce nell'87. Mm-hmm. Quindi ha accompagnato tutta la nostra infanzia e la nostra gioventù. Sì, Happy Days me la ricordo perché? Perché se è andata in onda dal 77 all'87, è andata in onda da quando avevo 7 anni fino a quando ne ho avuti 17, quindi praticamente l'ho vista sempre per tutta la mia, diciamo, crescita, ed è la serie più famosa degli anni 70 in assoluto al mondo, la più conosciuta, e ha avuto tutta una serie di unicum, tra cui il fatto di definire anche il famoso momento con il Jump the Shark, cioè il salto dello squalo, che fu quell'episodio dal quale poi la serie andò in declino, e quindi da quel momento venne utilizzato per tutte, diciamo, le serie, i seriali televisivi statunitensi, il momento Jump the Shark, quando raggiungi il massimo e poi inizi a scendere negli ascolti, e questo deriva da Happy Days, come tante altre cose derivano da Happy Days. Diciamo che da un punto di vista proprio prettamente didattico, in realtà per chi fa sceneggiatura è rappresentativo anche del fatto che in un momento in cui c'è uno status quo della serie, tu comunque costruisci narrativamente un fatto che crea il declino stesso della serie. Cioè, quando tu porti la serie sempre oltre fino ad arrivare al momento anche del ridicolo, no? Tra virgolette. Quindi, e nello specifico, infatti, c'è la famosa scena di Fozzi che con la moto salta allo squalo. Insomma, che ovviamente sono momenti che non avremmo voluto vedere, ma che ci stanno, insomma. Comunque, questa serie, questa sigla che abbiamo sentito è la seconda sigla in realtà di Happy Days, ed è la sigla originale fatta per la serie. In realtà, le prime due stagioni avevano come sigla Rock Around the Clock, un famoso classico degli anni 50 e 54. Sì, anche perché ricordiamo che la serie, pur essendo degli anni 70, in realtà era ambientata negli anni 50-60, quindi insomma esatto. È importante anche ed ha una colonna sonora eccezionale, infatti spesso da Arnolds vanno a suonare gruppi fantastici, cioè classici degli anni 50, degli ZZ Top anche, se non ricordo male. Beh, da Arnold poi succedono tante cose, tra cui anche una volta che arriva un alieno e da lì poi nasce un'altra serie, un'altra serie di la sentiamo tra poco. Che grande E anche un sacco di cose che sono passati, voglio dire, nella cultura popolare. È anche inutile ripetere, anche perché questa l'unica cosa che voglio ricordare è che l'avevamo detto in un'altra puntata, credo, di non mi ricordo se l'Udico Forum o era quando abbiamo spiegato l'origine del termine nerd. Era l'Udico Forum. Nerd, sì. Ecco, il termine nerd è nato negli Stati Uniti, ma è stato popolarizzato negli Stati Uniti, cioè è diventato famoso dire nerd grazie a Happy Days, perché era Fonzie che chiamava nerd il buon Ricky Cunningham e gli altri, diciamo, secchioni della scuola, cioè era il modo che aveva Fonzie di dire. In Italia veniva tradotto con mammoletta, credo, qualcosa del genere, una roba del genere. Cioè, non aveva, noi in quegli anni, negli anni 70 in Italia non usavamo il termine nerd. Ed era stato tradotto, però negli Stati Uniti la popolarità del termine nerd, diciamo a livello proprio di utilizzo comune, fu grazie proprio alla serie Happy Days. E quindi questa è una cosa che mi piace ricordare ogni tanto, perché è una cosa che non è molto conosciuta. Che mi pare che una canzone di Happy Days sia finita anche dentro Windows, come ti ricordi? No, non me la ricordo questa. Non la so, è finita dentro Windows una canzone di Happy Days. Sì, era un video che era contenuto. Però nel frattempo, parlando di Happy Days, ricordiamo anche il compianto Chuck, di cui non ricorda praticamente nessuno la sua memoria, che era il fratello. Il terzo Wizard. È finita dentro Windows. Ah, Wizard. Ah, Wizard. Il Buddy Holly. Di Windows 95. Vabbè, dai, abbiamo capito. Ci frega in cazzo Windows 95. No, ricordiamo. Ho beccato una cosa che non sa Carlo. Cazzo, fammi gaggiare. No, ricordiamo, insomma, appunto il fratello Chuck che apparve nel pilot e poi fu. No, non nel pilot, nella prima serie, perché sono 10 stagioni. Nella prima stagione apparve Chuck e aveva il ruolo aveva il ruolo che avrebbe dovuto avere, cioè quello di insegnante di Ricky Cunningham. Il protagonista all'inizio era Ricky. Ricky Cunningham era lui il protagonista di Happy Days. Vabbè, in realtà lo è alla fine comunque. Sì, e Chuck doveva essere il personaggio che lo responsabilizzava, cioè gli faceva da comprimario. Questo posto poi in realtà fu preso praticamente da Fonzie nel corso della serie, e si decise di sostituire poi già da partire dalla seconda serie la figura di Chuck con quella di Fonzie, cioè Fonzie prese il posto che sarebbe dovuto aspettare al fratello di Chuck. Infatti, se ricordate, poi nella serie fine Fonzie diventa quasi un altro figlio dei Cunningham, cioè i Cunningham diventano la sua famiglia che lui non aveva, il padre che lui non aveva, eccetera. Quindi sostituisce effettivamente la figura. Io mi ricordavo che era solo nella prima puntata, che poi dopo fu cancellato proprio. No, in realtà era nella prima serie, però okay, vabbè, faccio che mi fido. Salutiamo in chat Domenico che ci ricordiamo anche Philip Katz, inventore del pick up zip anni 80, sì, giusto. Dato che parlavamo del dottor Cazzo, insomma, allora giustamente. Vabbè, io andrei avanti. Tra l'altro, Happy Days, che tra l'altro Happy Days, noi lo chiamavamo Fonzie. Fonzi, cioè molti di noi neanche lo sapeva che si chiamava Happy Days la serie, cioè senza, oh, stasera c'è Fonzi, dove vedi Fonzi, dai, dai, andiamo a vedere Fonzi, questa è una cosa mi ricordo insomma. Ehi, sì, sì, vabbè, vabbè, d'altronde e... vabbè, questo ha segnato assolutamente la nostra infanzia e come ho detto è durato talmente tanti anni e il successo è indiscutibile di questa serie. Questa era pure bianco e nero, eh? Assolutamente. Qua stiamo parlando di una serie degli anni 60, non degli anni 70. Però perché l'ho messa? Perché in realtà a noi è arrivata negli anni 60, sì. No, è arrivata nel 66. Ah, sì. Pensavo anch'io, invece la Rai la trasmise già nel 66, ma fu replicata innumerevoli volte per tutto il circuito delle TV private negli anni 80, 100.000 milioni di volte. Quindi in realtà noi l'abbiamo vista, stravista e rivista, e poi fu veramente un successo anche questo, incredibile. Geniale. Geniale. Un attimo, scusa, se, messaggio di servizio. Io vedo una foto di una certa persona in chat. Vogliamo vedere l'hamburger. Esatto. Messaggio di servizio. Esatto. Okay. Esatto. Mandaci le foto dell'hamburger. E la famiglia Adams è una serie che in realtà nacque sul successo di un fumetto, perché la famiglia Adams nasce come fumetto, non nasce come inizialmente come serie TV, diventa una serie TV tratta da un fumetto di successo degli anni 50. E però la serie TV ha un successo planetario, anche questa, la famiglia Adams, è quella sigla che abbiamo sentito con il chi è che non l'ha fatta, cioè tutti ci siamo taratara, e così è geniale. Poi, dai. Allora, io trovo geniale tutto, nel senso anche nella serie quella in bianco e nero, in particolare il grande carisma degli attori, cioè proprio i personaggi erano azzeccatissimi, incredibile. Io impazzivo, il carisma di Mano. Mano, ma bravo, stavo a dire proprio quello. Io stavo a dire, ma Mano, ragazzi, non ne volevo parlare. Cioè, quanto genio c'è dietro? E la musica penso che l'abbiamo cantata e replicata miliardi di volte in forme diverse. Penso anche in versioni metal, probabilmente. Insomma, però, se vado a cercare, sicuramente la trovo. Insomma. Il cugino Hit, sono, il poi si chiama quello pelato Fester, lo zio Fester. Fester. Sì. E poi c'è il cugino Hit, era quello tutto con i capelli davanti, tutto capelli, esatto. E poi vabbè, che l'ho messo in copertina, tra l'altro. È vero. Ho visto. Lurch, il maggiordomo Lurch, che era Frankenstein, sì, più o meno, sì, certo. L'idea era quella, insomma, l'idea di Frankenstein. E è una serie che ha avuto successi innumerevoli negli anni, quello degli anni 60 ce lo ricordiamo tutti noi che siamo nati negli anni 70, l'abbiamo visto ed è penso quella che rimane più nel nostro cuore, però tutte le generazioni hanno avuto la loro famiglia Adams, fino a quelle degli ultimi film recenti e adesso addirittura ancora i cartoni animati, quindi è intergenerazionale come anche come secondo me il carisma però non è più lo stesso, eh. Io ho visto quello animato, a me non cioè proprio visivamente non mi piaceva niente, devo dire la verità, pur essendo comunque un fan di qualsiasi cosa che è fatta in CGI, quindi però in generale lo vedo e non mi piace, secondo me, cioè nel senso l'immaginario che costruivano gli Adams nella prima serie, secondo me oggi è un po', però è vero pure che magari per chi lo vede adesso per la prima volta, le nuove generazioni, l'effetto può essere sicuramente diverso. Noi partiamo sempre dal presupposto che abbiamo visto qualcosa prima, no? Quindi questo un po' ci penalizza. Esatto. Insomma. Guarda che comunque la serie di film che fecero negli anni 90. Ma io non me li ricordo quelli, sai? Non penso di aver visto. Ma sì, con l'attore, come si chiamava quello, Roberto, aiutaci, che faceva Gomez, che era un attore molto bravo, che è morto poi. Che fece anche altri ruoli, per esempio me lo ricordo in quel bruttissimo film che era Mortal Kombat, per esempio, o Street Fighter, forse fece anche Street Fighter, vabbè, nient'altro. No, no, vorrei, lasciamo perdere. Vabbè, io però quindi, i film devo dire non l'ho visti, quindi non posso. Andiamo, vabbè, c'era lo scienziato di Ritorno al Futuro che faceva lo zio Fester. Ah, sì. Ah, ok, vedi. Lo zio Fester era figo, si metteva le lampadine in bocca e si accendevano. Vabbè, comunque. Bravo. che poi qui l'inizio è ingannevole, eh? Questa lascia andare, dai. Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora il fianco, sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù. Se prendo il tè, non proprio come fai te. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco, ora che mi sei amico, non sto più se ti dico che io parlo con le piede, con le piede, le piede, vabbè, ma ci stai rovinando la canzone, da lontano, ma qui da voi. Questo pezzo la resta, la. Comunque, volevo dire, l'inizio è ingannevole. Ingannevole. Perché sembra Goldrake. Cioè, adesso ve lo faccio. Beh, le sonorità sono quelle degli anni 70. Sì, no, ma proprio il primissimo riff. Adesso ve lo faccio risentire, perché. Aspettate, eh. Alla barda spaziale. No, è diverso, però i suoni sono quelli. Dai, sì, dai, i suoni sono quelli, confermo. Anche perché le sonorità sono degli anni 70, quindi si riconosce il sound, diciamo che puzza di anni 70. Però è vero anche che questa, innanzitutto, è una canzone italiana, della colonna sonora italiana. Ebbe un successo strepitoso: sì, 45 singoli, Vendette, In un amore. E qui stiamo parlando di uno spin-off, di una serie TV spin-off di Happy Days. Happy Days, perché il buon Robin Williams, comico, ormai buonanima, caratterista, comico, sì, poi dopo diventato, esatto, anche grande attore, l'altro, esatto, debutta appunto facendo guest star in un episodio di Happy Days, dove interpreta questo alieno che arriva ad Arnold, che poi si rivela essere un sogno di Fonzi, o di Ricky, esatto, di Ricky. E ebbe talmente tanto successo quell'episodio che decisero di farne uno spin-off, una serie TV dedicata, che era Mork e Mindy, quindi questo alieno Mork che veniva dal pianeta Ork e parlava col grande, com'è che si chiamava? Orson, mi senti Orson? Mitico, con l'uovo, esatto, con l'astronave uovo. A me piaceva moltissimo il pezzo finale, tutto, quando lui faceva, sì, questo racconto, era moralizzando anche molto, però era molto poetico, era fatto bene quella serie comunque. Beh, ma solo Robin Williams secondo me poteva fare morto, è veramente adatto a lui, e comico, drammatico, visto, e poetico insieme, sì, cioè, sì, vero, sono d'accordo. È una serie che è rimasta sicuramente in tutti i cuori di noi, di ragazzi di quell'epoca, e con questo anche la sigla oltretutto era, credo, animata in plastilina, se non ricordo male, era veramente carina anche da vedere come sigla. Qui adesso ho raggruppato, siccome stavamo parlando di sitcom, ho raggruppato le sitcom, cioè ho messo dentro una serie, un 4-5 sitcom di seguito, famose da noi, più o meno in ordine cronologico, partendo da una sitcom che sicuramente tutti ci ricordiamo, che è Vita da strega. Siamo negli anni 60 e si sente. Fa schifo, infatti, l'audio, però vabbè. L'audio è anni 60, la sigla anni 60. Però la senti e ti ricordi subito ti ricordi subito la serie, ti viene in mente tutta la serie di Vita da Strega. Vita da Strega mi piaceva molto, diciamo che era parallela all'altra serie sempre con la maga, quell'altra che però non mi ricordo come si chiamava, perché ce n'erano due. Sì. Il genio lì, quella del genio della lampada. Il genio della lampada, esatto, questa era la strega, poi c'era l'altra che era il genio, ed erano abbastanza similari, però mi ricordo questa in particolare, Vita da Strega, ebbe veramente un grandissimo successo da noi. Secondo me era più bella, era più studiata, cioè con tutti i vari personaggi. E cambiò il marito, mi ricordo, Darwin, Darwin. Di Samantha. L'attore cambiò durante la invece in Vita da Strega c'era J.R., no? C'era J.R. Esatto, in quello del genio c'era J.R. Sì. Faceva il militare lì dell'aeronautica americana. Ah, forse c'è esatto. ragione, forse c'è ragione. Sì. Sì. E spesso lui che trova il si chiama la lampada e fa uscire Ginny. Ginny il genio, e appunto gli esaurisce tutti i desideri e diventa sua moglie. Noti e non noti, vabbè. soprattutto non noti. Aspetta, dammi un secondo perché qui è successo un casino. Nel senso che la Vita da Strega l'ho messa per prima perché è la più vecchia, quindi è quella degli anni 60, anche se noi in realtà le ricordiamo tutte più o meno contemporanee, sì. Perché in realtà tra repliche e prime visioni in ritardo in Italia eccetera non arrivavano dopo. In realtà quelle che metto adesso le sono uscite quasi in contemporanea. Strega per amore. Era l'altra, bravissimo. Una era Vita da Strega, l'altra Strega per amore. Le confondiamo. Larry Hagman, chiaramente. Esatto. Però le confondiamo per il titolo italiano. Però in realtà, come hai detto tu, una era una strega e l'altra era un genio della lampada. Quindi concettualmente erano. Vita da Strega in inglese è Bewitched. Questo me lo ricordo. Sì, esatto, perché era proprio strega, Bewitch, mentre l'altro aveva proprio qualcosa con il genio dentro, quindi era. Ecco, chi si ricorda questa sigla? Eh beh, io mi ricordo perché sta serie film mi piaceva da morire, me lo guardavo sempre con mamma, quindi. Ma ti lascio l'onore. Si tratta di Tre cuori in affitto è stata forse una delle prime sitcom classiche americane ad avere un grandissimo successo da noi, insieme a un'altra che arriva dopo, che ce ne sono altre due che ci ricordiamo tutti, ma soprattutto questa ce la ricordiamo in particolar modo perché c'erano le due ragazze che vivevano con ragazzo, sì. Quindi era un po' la situazione che tutti noi, diciamo, movimentati dei mormoni all'epoca. Esatto. Volevamo essere noi, diciamo, il protagonista. Janet e Chrissy. Esatto, di quella sitcom che poi anche lì ha avuto talmente tanto successo che ha dato vita a tutta una serie di spin-off, anche Tre cuori in affitto, perché poi da lì fecero lo spin-off dei due padroni di casa anziani, piuttosto che un altro, adesso non mi so. Jordan Mildred, bravissimo. È stupendo. Sì, perché lui era il padrone di casa, che lui non voleva. Esatto. Cioè, non voleva che c'era l'uomo insieme a due ragazze, e loro l'avevano convinto che lui in realtà era omosessuale. Era gay. E invece non lo era. Qual era questo? Pensa come noi prendevamo l'omosessualità in quel periodo lì, cioè non era così, cioè se era omosessuale sì vabbè fa niente, cioè non è che forse era più o perlomeno per la sua morale era meglio che era omosessuale piuttosto che gli faceva cose zozze dentro casa magari, capito? Esatto, sì, ma anche noi all'epoca non mi ricordo molto scandalo per il fatto che si dicesse che lui era omosessuale piuttosto che in generale, ecco, adesso stiamo parlando di altro, però almeno nel mio ricordo mi ricordo che forse c'era sì, anche se però posso dirti che forse. Secondo me a mio ricordo era una cosa che era più lasciata sottintesa che detta esplicitamente, quindi so se tu ti ricordi c'era un po' questo giochino, diciamo così, insomma. Ah, dici che non era sempre sottintesa, sì. Andiamo avanti ragazzi, il E anche qua l'audio di merda, ma vabbè, ci accontentiamo, no? Ma qua siamo degli anni Ottanta, comunque già passiamo. Ma anche la canzone, quindi si sente. Moving on up to the east side. To the east side, esatto. E Jefferson, anche se era una serie molto americana, da noi abbia un successo incredibile. Sì, sì. Anche se trattava temi che da noi non è che venissero proprio, diciamo, questa della razzismo neri bianchi prettamente statunitense, che da noi all'epoca era quasi sconosciuto, diciamo, sì, come sì, sì. Tipologia, però fu, a dirti la verità, non mi so spiegare come mai abbia un successo così pesante in Italia, però probabilmente per quell'aria veramente cinica che c'aveva la serie, che è stata forse una delle prime, no? Perché vi ricordate, c'era i Jefferson, poi c'era quell'altra lì dei rigattieri, vi ricordate, che erano padre e figlio, che pure lui erano bastardissimi entrambi, no? Cioè, quindi era questo filone di serie televisive di questo tipo che esplose molto in Italia e fece molto, molto successo in quel periodo, anche se alcune meccaniche appunto sociali, diciamo, dell'America noi non le conosciamo, però l'intuivamo. Jefferson con la cameriera lì, Florence bruttissima, sì, era quella la cosa principale, più che lui la moglie o il vicino, sì, era lui e Florence, lui il comico alla spalla, davvero bravi. E poi vabbè, andiamo a una serie che anche questa in Italia, quelli della nostra generazione ce la ricordano tutti. Allora, aspetta. Diciamo che anche in Arnold c'erano le stesse meccaniche di descrizione di un ambiente, di una società, quella newyorkese, che noi non conoscevamo, ma appunto iniziamo ad intuire tramite questi racconti. Però Arnold, rispetto ai Jefferson e a tutti gli altri, c'aveva questa cosa che ti inteneriva, no? Cioè, nel senso, comunque alla fine era la storia di questo ragazzino, no? Questi due fratelli, anzi, sì, di Harlem, che sono adottati dal super riccone della New York, bene, bianco, esatto. E tra l'altro con tanto di sorella, e quindi ovviamente, cioè, nel senso, c'è questo, tutte queste loro dinamiche, questi loro conflitti anche, però poi alla fine tu Arnold gli vuoi bene perché lui faceva sempre qua la faccia in quella maniera lì, poi abbiamo scoperto che era un alcolizzato, un nano alcolizzato, però tutto questo noi non lo sapevamo, e allora fino a che non lo sapevamo, l'immersione. Di drammi fra loro, cioè ce ne sono fra tutti gli attori di quella cosa. Lui, beh, lei è morta di droga, se non mi sbaglio, vero? Cioè, sì, poi ha fatto una brutta fine, abbastanza, dei film particolari. Lei era lesbica, che non c'è nulla di male, chiaramente, però aveva fatto dei film lesbici, lesbici. E poi lui era malato anche per quello, cioè sembrava molto più piccolo di quella che era, e poi morì, lui aveva una malattia che lo faceva sembrare più giovane di quello che era, insomma sembrava un bambino, ma in realtà già era cresciuto. Tra l'altro c'era un'altra serie all'epoca, morirà male perché viene spinto dalle scale, pare, con la moglie, insomma non si sa bene, addirittura apposta, sì sì, ma tutti, per pure il padre lì, non so, non ricordo come si chiama, il signor Drummond mi pare, una serie un po' sfigata, è vero, e il fratello Willis, che sto dicendo, Willis pure lui, cioè proprio un disastro, sì, insomma. È stato un po' disastro. Tanto la serie comunque si chiamava da Harlem a Manhattan e non Arnold, vabbè, noi lo chiamiamo, è come Happy Days, che era Fozzi, come Happy Days, esatto, bravissimo, noi era in inglese Different Strokes, che infatti era nella sigla esatto. Lo dice Different Strokes, eccetera eccetera, vabbè, c'è da dire il fatto che lui poi, tra l'altro, Arnold, quindi l'attore, insomma, che ha fatto Arnold, è apparso anche recentemente, prima di morire, in alcune serie dove faceva quello che un po' era, cioè il bastardo alcolista, insomma, perché poi alla fine lui ha marcato molto su questa cosa. Lui ci ha avuto proprio moltissimi problemi, proprio anche dal punto di vista legale. Quindi, sai, alla fine, quando entri in un filone maledetto, diciamo, è difficile sempre uscirne fuori. E mi ricordo che all'epoca, più o meno, insomma, all'epoca c'era un'altra serie, sempre americana, sempre con un altro nano, perché malefico, sempre di colore. E che praticamente era una sorta di emulazione di Arnold, cioè era una sorta di copia, un clone, però, una copia, esatto, sì. Però adesso in questo momento non mi ricordo. Qualcuno di voi ha capito di che si sta lamentando Davide in chat? Che io non lo so, non sto guardando la chat, non lo so. Mi dispiace, non lo so, però l'hamburger è stato. Salutiamo Red Max nel frattempo, che giustamente ci ha unito e ed è quello che ha detto. Dice Davide, ha detto che Tre cuori in affitto era una delle serie che aveva mandato lui nel suo contributo. Ce l'hai il suo contributo, Simone? Hai ragione, c'ha il suo contributo, ma mi sono scordato, dopo lo mandiamo, tranquilli. Più avanti, vabbè ragazzi, ha ragione Davide. Il regista però... si scorda, c'ha ragione Davide, no, giustamente. No, vabbè, io non l'avevo sentito il contributo del buon Davide. Comunque allora diamo a Davide quel che di Davide, quindi Tre cuori in affitto era sua. Ok, era una sua segnalazione. Abbandoniamo il settore sitcom, quindi entriamo. Icona, icona questa. Sbang, slash, splush, bellissimo. Sbong, Adam West, la panzetta. Eccoli qua. La panzetta. Sono riusciti a rendere un fumetto in TV. No, sono riusciti a rendere un fumetto carismatico e drammatico. Una pagliacciata per la televisione, sì, per la a me piaceva anch'io ero affezionato, scherzi, cioè voglio dire, però oggettivamente era una porcata, cioè nel senso era molto inglese, innanzitutto molto inglese, e per un fumetto americano diventare inglese forse succede questo, probabilmente, esatto. Non so, tra l'altro la prima storia di omosessualità esplicita tra due personaggi Batman e Robin. Esatto, e c'è dai, secondo me quando... anche diciamo un incesto in low, quando come scalavano i grattacieli in orizzontale nella sigla, era troppo bello quello, e vedevi proprio palesemente che era la telecamera girata, però erano loro che scalavano il grattacielo in orizzontale e la macchina che si accendeva con le micette, le micette, bravo, esatto. Vedi che ho fatto scuola io, hanno tutti imparato da me, bellissimo. Va bene, ricordate Ridicolaggine, non so se chi di voi l'ha visto, questo era ancora più vecchio, Capitan Nice. No, non l'ho mai visto questo, non l'ha visto nessuno, che un tizio ridicolo e la nonna gli dava una specie di pozione, c'era un'esplosione e lui diventava Capitan Nice. Allora vi manderò il telefilm piratato, che non si può fare, quindi non si può dire. Così non l'hai detto. Vabbè, insieme a Batman ho messo un'altra icona degli anni, questo era Batman degli anni 60, anche se comunque noi l'abbiamo visto negli anni 70. Negli anni 70 invece c'era, l'hai trovata la sigla, signora? Sentite la similitudine della sigla, è incredibile. Sì, anche se musicalmente sono due generi completamente diversi. Sono passati 10 anni, cioè dagli anni 60 si è passati agli anni 70, ma c'è sempre Wonder Woman. Secondo me, guarda, la similitudine tra queste due serie televisive stava nella, nel porcume con il quale venivano riprodotti sti fumetti in televisione. Veramente, parliamo proprio di mascheroni. Cioè. A parte lei che era una bistecca. Sì, lei era Miss America. Era bistecone. Ma guardate, l'avete vista le foto recenti sue? Sì, mi è stata fantastica ancora adesso. È incredibile. La gnocca della Madonna. Ma forse adesso anche a me. Perché poi dopo è quella bellezza bistecconica, cioè non è una bellezza raffinata, capito? Sì, sì, sì, però oggettivamente calmiamo un attimo, cioè fermiamo. A noi la vedevamo, impazzivamo perché avevamo l'ormone a mille, no? Però cioè, la sua bellezza era una bellezza bistecconica, non era una bellezza raffinata, cioè non era non poteva fare la modella, cioè, questo vuol dire, insomma, dai. Sì, era bella capito, insomma, è quello. Ma no, io non direi, cioè, non era veramente bello. Anch'io mi dissocio da questa. Lei era Miss, fu eletta come Miss America, Miss Mondo. Miss America, voglio dire, pure Miss Mondo anche. Miss Mondo, cioè, perché però era fatto dall'americani sempre. Ma comunque era, se tu la vedevi Linda Carter, cioè ragazzi, guarda, cercati delle foto dell'epoca e poi dimmi, non immaginate, era sempre vestita col costumino da Wonder Woman che aveva nel telefilm, cioè devi anche vederla. Possiamo anche immaginarla senza il costumino proprio, dici. Comunque in Wonder Woman era oggettivamente fatto meglio di Batman, come serie televisiva, ebbe anche quella molto successo all'epoca, una delle poche. Che in realtà credo che furono poche le serie di forse Hulk fu l'altra, la terza serie. Madonna, che ebbe Hulk, povero Cristo. Esatto, quello con Luferrigno. Di cosa ti riferisci? Che tipo di serie? C'era anche l'uomo da 6 milioni di dollari, la donna bionica. Io sto parlando di fumetti, supereroi tratti da fumetti della Marvel e DC, perché per esempio Superman, il telefilm, non ricordo un telefilm all'epoca che ebbe successo. Ci furono i film al cinema. Io ma me ne non... ricordo uno in bianco e nero di Superman. Ce ne fu uno in bianco e nero, sì, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo, ma vagamente, ma me lo ricordo. Mi piaceva anche, tutto sommato, sempre. Anche l'Uomo Ragno non aveva una trasposizione televisiva, non ci fu, a parte il cartone animato, non c'era un telefilm. No, c'era quello giapponese che c'aveva il robottone. Quello giapponese, lasciamolo perdere col robottone. La chiama di Megalopoli, Megalomelli. No, Megalomelli lo vediamo dopo, quello era un telefilm giapponese, ma c'era il telefilm giapponese, ma non arrivò in Italia il telefilm giapponese Nuovo Ragno. Grazie a Dio. Anche se arrivò il robottone arrivò, fu distribuito in Italia. Lì era tutto sul mucchio, solo che noi non sapevamo che era il robot dell'Uomo Ragno, si chiamava Leopaldion, ed era un robot con se lo guardi bene, sì, esatto. Vabbè, passerei al next step, che a noi interessa tantissimo perché l'ho chiamato lo spazio. Senti, rock progressive, ragazzi, mica cazzi, cioè. Oggi se la sognano la sigla così. Tra l'altro parliamo di una delle tre serie dell'epoca che ho amato di più in assoluto. Le altre due vengono dopo, che sono comunque simili e concomitanti più o meno. Io metterei, questo è Spazio 1999, esatto. Vediamo, uscito nel 1975, ma io oltre alla sigla iniziale bellissima metterei anche la sigla finale italiana, perché è fatta da le astronavi. Lo spazio è pieno di misteri, aiuto, fermi, SOS. C'è tanta Lazio in questa canzone. Eh sì, ci sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis. Tra l'altro voglio dire una cosa, proprio ne colgo l'occasione, poi chiamati Oliver Onions, esatto, che sentiremo dopo in altre innumerevoli single. Volevo dire, poi ritorniamo a parlare di Spazio 1999. L'11 aprile a Roma fanno un concerto al fanno un concerto, forse l'ultimo concerto, perché loro hanno fatto praticamente un disco recentissimamente con tantissime collaborazioni. Tra l'altro il disco io ce l'ho ed è molto bello, e la versione vinile addirittura è la terza in classifica mondiale. Questo per capire l'entità di questi artisti, che alla fine sono stati compresi più nel resto del mondo che in Italia. E questo insomma noi lo sappiamo anche bene, perché noi conosciamo le sigle di Bud Spencer, però chi conosce veramente gli Oliver Onion sono in pochi, no? Nel senso, e questi hanno fatto più di 170 musiche di sto livello e hanno sonorizzato diciamo in Germania spaccano una cifra. Gli Oliver Onion vanno, so che sembra incredibile, ma no, così, vanno ancora più che in Italia. È vero, assolutamente. Sì, sì, è vero. Ma dico che siccome loro fecero prima del Covid, subito prima del Covid, fecero praticamente un concerto all'auditorium a Roma, dicendo che sarebbe stato l'ultimo concerto. Io non riuscii a prendere i biglietti e gente che c'è andata hanno detto fiumi di lacrime, cioè momenti di emozione incredibili. Poi se lo fanno aprire lo prendo anch'io il biglietto, dimmelo. Io l'ho preso il biglietto, per me e per Michela, e se vuoi poi ti mando il link anche su dove, come e quando. Perché devo dire una cosa, che loro sono stati convinti, perché voi sapete che loro hanno, cioè si sono, non tra virgolette sciolti, nel senso che ognuno poi ha deciso di dedicarsi ad altro, giustamente. Però loro dal concerto dell'auditorium hanno avuto questo impulso di fare questo nuovo disco, che tra l'altro ha arrangiato benissimo, bellissimo, cioè è assolutamente da ascoltare. Sono pochissimi pezzi, purtroppo, però ci sono secondo me le cose, delle pietre miliari là dentro. E niente, vabbè, ci tenevo a dirlo perché grandi Oliver Onion, un pezzo del mio cuore comunque. C'è anche a Milano comunque il concerto, eh? Ah, meglio ancora. Andiamo io e te allora a Milano. E anche Davide. Andiamo. Non so se a Davide gli piacciono, però vabbè, comunque. Questo è Spazio 1999, una serie americana coprodotta dalla Rai per portare il colore in Italia, giusto? No, che americano. Inglese, vabbè, scusate. Vabbè. Ah sì, era BBC. I coniugi Anderson. Esatto. Mitici coniugi Anderson. È una serie italo-inglese ed era non per portare il colore in Italia, ma noi l'abbiamo vista in bianco e nero, in realtà, anche se la serie era a colori. Ci siamo visti la seconda serie in inglese a colori, perché noi nel 75 in Italia non avevamo ancora la televisione a colori, per colpa dello Stato praticamente, che non si erano ancora messi d'accordo sullo standard da utilizzare per la TV a colori. Ci furono interrogazioni parlamentari e scelte varie su e giù, fino ad arrivare praticamente al 77, quasi nel 78 praticamente abbiamo avuto la televisione a colori, quasi per ultimi in Europa e molto molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti, dove la TV a colori era già. Io nel 78 c'avevo la mia Telefunken a colori grossa, mi ricordo. Tutto, insomma, nel 78 poi la comprata tutti a colori, o chi poteva, penso esatto, con cambiali a rotta di collo, ma insomma alla fine l'abbiamo comprata. Io comunque l'ho vista a colori anche quando ero ragazzino, quindi evidentemente, ma magari io l'ho rivista. L'hai vista a colori quando l'hanno rifatta esatto, 75 l'hanno trasmessa in bianco e nero. Vabbè, comunque andiamo avanti, perché sennò non finiamo più la puntata. Grande comunque Spazio 1999, ragazzi, se vi capita, se volete dire qualcosa ditelo, se no andiamo. Dite. Andiamo qua, Spazio, guarda. Ultima frontiera. Andiamo. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Questo è un pezzo proprio importante della mia esistenza. Non diciamo niente perché dovremmo fare una puntata intera. Esatto. No, io dico solo una cosa: che Star Trek è una serie del 66, sì, del 1966, sì. E noi in Italia l'abbiamo vista per la prima volta. In Italia, per modo di dire, ce l'abbiamo vista nel territorio italiano nel 1979, Tele Monte Carlo, trasmessa da Tele Monte Carlo, esatto. Quindi neanche da una TV italiana, giusto per dare Tele Monte Carlo era una TV italiana, mo che stava a Monte Carlo è un altro discorso, per dire, nel senso che comunque poi vabbè, in realtà quando uscì nel 79 su Tele Monte Carlo la videro molto in pochi. Poi successe che uscì il film al cinema di Star Trek, il movie del 79, che comunque ebbe un discreto successo, e quindi fu poi trasmessa nei circuiti delle TV private dell'epoca, del 1980 soprattutto. Diciamo che noi l'abbiamo conosciuta più quando ci furono le ritrasmissioni delle televisioni private nel 1980. Avevo comunque 10 anni, quindi eravamo già grandicelli, però vabbè, ha segnato la nostra infanzia, perché una volta non che diciamo hai visto nulla, Star Trek, hai visto Star andiamo Trek. Avanti andiamo alla seconda, no, una serie del 70. Sì, del aspetta 70. Però che ho fatto un casino, tu sai, insomma, devo fare una cosa un po' zozza, che è un po' una transizione, un po' una via di mezzo, e poi eccolo qua. Alla fine arriva, come tutte le cose, piano piano, sempre se parte, perché mi dà, Carlo mi dà dei file con dei spazi vuoti all'inizio. Eccolo. Sento una merdissima, però vabbè. Finito? Ah, ecco, ok. Pam, pam. Sono le pause, tu rispetta pam, le pause. Pam. Certo, in radio vanno benissimo, no? Questa è proprio 70-70, ragazzi. Posso dire una cosa? Che vabbè, in questo contesto qui parliamo di UFO, no? Cioè nel senso dei base UFO, Shadow, come si chiama? Shadow. Certo. Che stasera c'è trancazzo, cioè nel senso. era molto una sigla tipo spie, perché esatto, in realtà bravo. UFO, guarda che era una serie molto ispirata, sì, è vero, spionaggio, è vero. 007, eccetera. Quindi aveva questo ritmo tipico. Questa è una serie del 70 che in realtà in Italia non è arrivata, perché fu trasmessa dalla TV svizzera, cioè noi l'abbiamo vista in Italia ma tramite la TV svizzera, trasmessa dal 70 al 74. Poi probabilmente ci sono state anche repliche successive negli anni successivi in vari canali italiani, ma all'inizio arrivò tramite la TSI, la TV statale svizzera italiana, è la seconda degli Anderson, cioè. Quindi Spazio 1999, UFO Shadow, e anche qui non è citata Thunderbirds, che è quella con le marionette. Sì, con le marionette. È stupenda. Ah, terribile. Non sì. L'ha vista. Quella non l'ho messa perché le marionette sono un po' a metà tra serie TV e cartone animato, sì, quindi sì. Non sapevo se metterla o non. L'ho vista, la guardi. Nella cosa. Vabbè, poi ho messo un'altra serie che è Tre Notte. Hai già capito cosa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. La bellezza, quindi la bellezza proprio. Cioè. Io sarò forse un po' nostalgico. No. Quello che cazzo mi pare, però. Scherzi, cioè. Il titolo originale. La sigla era solo. Il titolo originale è Twilight Zone. Ma noi in Italia la conosciamo con Ai confini della realtà, che è un titolo azzeccatissimo, cioè era meraviglioso. Forse è una delle poche volte in cui un titolo riesce a cogliere il senso dell'opera. Perché noi di solito facciamo dei titoli a cazzo di cane. E intanto mi è cascata la tastiera, scusate. Vabbè, tranquillo. Comunque, cosa c'è da dire su questa serie, che in realtà è un insieme di serie, perché Twilight Zone, Ai confini della realtà, ebbe più incarnazioni durante l'epoca, la storia, dalle prime serie degli anni 60 in bianco e nero fino ad arrivare a quelle degli anni 70 e poi ancora il remake degli anni 80. Noi credo che la prima che ho visto io in realtà era già, credo, la quarta o la quinta serie dei confini della realtà, del Twilight Zone, che da noi venne presentata come Confini della realtà, ma era già a colori, credo, e sì, recente. Sì, è vero, perché e poi le prime erano bianco e nero, anni, esatto, ma le ho recuperate. Rod Serling, Rod Serling, che era scrittore incredibile di fantascienza, e infatti degli episodi sono veramente dei capolavori, dei corti di fantascienza che sono rimasti nella storia e hanno dato poi seguito a film, a produzioni, cioè molte ispirazioni di film di fantascienza famosi piuttosto che di serie di TV famose, eccetera, sono arrivati agli episodi Ai confini della realtà. Ma io su Ai confini della realtà veramente ci volevo fare proprio una puntata addirittura, perché magari ci faremo una puntata, sì, perché sono delle puntate, ragazzi, penso si può tranquillamente fare di un'altezza incredibile, insomma, così come faremo una puntata sollecitati da una persona che ci ascolta volta, visto e considerato che Davide si è tagliato fuori perché non conosce bene la serie, però c'è una persona che la adora e la conosce a mena dito e sarà ospite ovviamente di quando eravamo futuro, che è questa, insomma. Anche qui tre note. E qui tre note e ce l'hai subito. Come diciamo con Indiana Jones, no? Cioè, nel senso, tre note. Questa mi è. Guarda, non lo so, questa mi emoziona ancora quando la sento, questa sì. Cioè, sì. Quando sento quel suono, che mi viene nella pelle d'oca, capisci? Cioè, perché io, come tanti altri di noi, penso fummo quei pochi che la vedettero in Italia quando arrivò per caso nel 1980 la quarta serie in realtà del Dottore, che fu trasmessa quasi per caso, cioè non mi ricordo che fu granché pubblicizzata, però quando arrivò era spaccava tutto, cioè, io sai qual è la prima serie di Dottor Who che ho visto, mi ricordo, era quello Riccetto con la sciarpa multicolore, sì sì, è lui che arrivò, la prima serie era il quarto Dottore, un trip incredibile, la prima e unica serie che arrivò in quegli anni quasi contemporanea in Italia con questa sigla qua all'inizio. Per la sigla io vi consiglio di sentire anche la versione degli Orbital, trovate tranquillamente su YouTube, che è eccezionale, sì sì. Vabbè, anche qui ci faremo sicuramente una puntata, sì, su Doctor Who. Che no, mi ha fatto venire la curiosità. The Orbital Doctor Who, Dottor V, come dicono alcuni, insomma. Dottor V, esatto, sì. È diventato cinese, esatto. Secondo solo, così ce la sentiamo un secondo, perché poi io le varianti, vai. Una marea di varianti, ragazzi, poi alla fine su. Che poi polenta. Sì. Adesso parte. Piano, inizia, se la prende comoda, insomma, diciamo così. Anche se all'inizio già, vedi, le sonorità sono quelle. Ma è lei, eh? Sì, sì, assolutamente. È rallentata, ma è lei, sì. E gli Orbital sono incredibili, Un po' più distorta. Beh, cioè, è figa, Sì. Vabbè. Poi me la sento, dai, comunque. Volevo dire, dottor Luke, insieme a Twilight Zone, questo richiamo, anche queste sonorità al mistero, allo spazio, sì, alla fantascienza, alle cose all'oltre comprensibile, diciamo, te lo richiamava sempre. E ogni volta c'erano queste sonorità, io mi s'accapponava la pelle, devo dire. Grandi bei ricordi. Mi s'accappottava, esatto. È proprio il termine che io avrei utilizzato se l'avessi utilizzato, insomma. Aspettate che mi sono un po' perso. Tu intanto continua. Conclusione, adesso concludiamo il breve dello spazio, messo aspetta, ti prego. Con un suo perché molto. Lasciami entrare con la musica, per questa cosa che io sono impazzito questa roba. Cioè, questa è una cosa che vedevo con mia madre e ce la guardavamo con gli occhi sbarrati, soprattutto una scena in particolare che tutti ricorderete. E insomma, ragazzi, sentite questo suono di batteria sotto, che è l'icona di questo brano musicale, perché cioè, cazzo, come fai a non ricordarti una cosa del genere? Cioè, sì, sembra Carpenter quasi. Sì. E beh, secondo me l'ispirazione c'è di gran lunga. Tra l'altro, chi non si ricorda la prima puntata di Visitors? A tutti se la ricordano. La prima puntata che tutti eravamo rimasti così, no? Oggi ci provano milioni di volte a riproporre le stesse tematiche, non riescono, secondo me, io sto vedendo Invasion adesso di Apple TV, che è anche intelligente come operazione, perché sono Mike Donovan, non ricorda Mike Donovan? Sì. Che poi degli eroi improponibili. Poi ho scoperto che dentro ci sono un sacco di attori che poi sono diventati famosissimi anche negli anni successivi. Beh, cioè, Willy, non mi ricordavo. Willy è quello che ha fatto coso, Fred Krueger, no? Freddy Krueger, ma c'è per esempio il capo dei Visitors, che è, porca miseria, mi sfugge il nome adesso, l'attore che ha vinto l'Oscar poi recentemente con i film di Tarantino, eccetera. come si chiama? Quello che fa il tedesco di solito. Che ah sì, sacco... ok, sì, ho capito. Anche a me mi sfugge in questo momento il nome. Comunque questa serie era lui quello che faceva il capo dei Visitors. Comunque questa serie era bellissima. Era da marra, comunque, perché era da marra come serie, però era bellissima. E la prima puntata, quando arrivano i visitatori e loro atterra lo shuttle per la prima volta e escono 27 milioni di persone da quello shuttle e tutti già cominciano a farsi delle domande, e la scena di Diana che si mangia il sorcio, ragazzi, cioè io penso che, o Diana, come si chiamava, insomma. E anche, sì, e anche, la, anche la scelta della voce, no, come che c'avevano quella voce metallica in quella maniera strana, no? Ragazzi, era figa Visitors, non era... Visitors era un po' un incrocio tra fantascienza e horror, e horror dell'epoca, sì, degli anni Ottanta, e effettivamente a noi che eravamo bambini in quel periodo fece molta paura, cioè anche c'era una serie era che molto, aveva timore, era molto, assolutamente era molto particolare, incuteva paura. Allora, e... sì, ce n'erano altre di telefilm di fantascienza, ma chiaramente non ce la sono mille, però avevo fatto una selezione, ovviamente, ma ce ne sono veramente tantissimi. Adesso ho fatto un'altra area che è la chiamata West, però ho messo solo una sigla perché devo dire la verità, ragazzi, dico la verità, a me i telefilm western mi facevano cagare. Quindi, no, non mi piaceva, non mi sono mai piaciuti, no? È colpa mia, non c'è niente da fare. E quindi ho messo solo La casa della prateria, anche se in realtà vai la bellezza, ragazzi, sì, erano proprio belle queste serie. O sarà che lo amate solo io, perché pure una volta ci feci una puntata dei telefilmanie e tutti si incazzarono, ma che le serie del West, ma che La casa della prateria, oh, ti incazzare, c'è bello, ma scherzi, non so, The Gustibus, io non riuscivo a vederle, ci ho provato ma non mi piacevano proprio. Comunque, ho messo questa, poi c'era La grande vallata, Bonanza, La signora del West, ce ne sono state infinità. Ti rendo merito del fatto che comunque la citazione è importante, però tu dice che c'hai messe, però io ce l'ho, quindi... Sì, no, questa infatti è l'altra che ho messa, ma l'ho messa perché è sempre dei grandi Oliver, Guido e Maurizio De Angelis, esatto. Orchestra, anche se fu cantato da Mal. Comunque non abbiamo citato Linda Evans, io sono offeso da questo. Arriviamo al ritornello e poi... Tu stai zitto, sono il capo dei banditi. Tu stai zitto. Ma che bello, ragazzi, che bello. Entra. Furi a cavallo del West che beve solo caffè. No, non bellissima, bellissima, emozioni, queste sono emozioni, ragazzi, cioè... E poi vabbè, visto che adesso introduciamo Guido e Maurizio De Angelis, cioè gli Oliver Onions, mettiamo il loro cavallo di battaglia. L'altro cavallo. 1977, cavallo di battaglia, canzone forse più conosciuta in assoluto in Italia degli Oliver Onions. Aspetta un attimo, aspetta, diciamo una roba però. Erano gli Oliver Onions, ma c'era anche Mal. Questa c'era anche Mal, ma io adesso da questa, che era Oliver Onions, cantata da Mal, eccetera, introduco un altro telefilm, un'altra serie TV di grandissimo successo in Italia, che la sigla forse è la più ricordata tra tutte le sigle degli anni 70. No, cosa stai facendo? Tu, questa c'è. No, prima c'era quella più famosa, prima di Orzo Way, allora mi sono perso un pezzo, scusa. Dopo Mal, La casa della prateria, anni 70, Mal, Guido De Angelis, Maurizio, Orchestra Furia. Ah, ok, cazzo, c'hai ragione, porca puttana. C'hai ragione, sì. Aspetta, dammi il tempo, ragazzi, io posso fare tutto, io parlo, faccio regia, coso. È la più famosa, ma non è la più bella che hanno fatto per quel telefilm. È la più famosa. Poi diremo qual è la più bella secondo me. Vabbè, sì, mi interessa. Questa però Questa è la più famosa in assoluto. Questa, peccato, non, questa, peccato che non c'è, però. Come non c'è? Non c'è il file. Dai, dai, no. Non muore. Ci credo. Sì. Aspetta, piango. Aspetta che faccio la ricerca. Vai online, vai. Sì, non ci credo. Non ho messo non il file. Non c'è, te la vado a cercare. Sì, c'è. Vabbè, non ho mai l'ho trovata su YouTube, dai. La tigre della Malesia c'era scritto. Ormai l'ho detto. Ma la tigre della Malesia è Sandokan, che c'entra, scusa? Infatti io dicevo quella, Sandokan. Ma che cazzo? Allora non ho capito io. Scusa, Sandokazzo vai. Io stavo dicendo Sandokan, ragazzi, da un quarto d'ora che sono su quella riga lì. 1976, Sandokan è la sigla più famosa in assoluto in Italia. A Roma si diceva Sando cazzo vai. Comunque questa sigla, questo telefilm è bello, successo bello. Anche per la sigla, perché bello. Veramente qui fecero veramente questa, un capricci al volo. Era bella la sigla. Monfracem vivrà. Monfracem vivrà è sempre della, è la sigla finale, se non ricordo male. Sì. Lato B di Sandokan del 45 G. Degli Monfracem vivrà. Secondo me è una delle canzoni più belle degli Oliver Onion. Era sempre della colonna sonora di Sandokan. Sandokan, vabbè, telefilm culto. Vai, Carlo. Prodotto dalla Rai, ovviamente tratto dagli racconti di Salgari. Che come tutti sappiamo raccontò di questi pirati della Malesia, di queste avventure indiane della Malesia senza mai essere stato o mai visto questi posti, quindi questa è rimasta sempre nella storia e creò però queste storie fantastiche, però poi un successo mondiale dal punto di vista proprio della produzione letteraria. E il telefilm è forse una delle produzioni migliori in assoluto italiane degli anni 70, perché poi il telefilm è anche questo prodotto in Italia ma successo internazionale con grandissimi attori, a parte Kabir Bedi che impersonava lui è Sandokan ed è sempre rimasto Sandokan. Sì, è vero, è vero. È sempre stato identificato come questo, ma ricordiamo Adolfo Celi, ricordiamo l'attore francese che faceva l'amico Yanez, insomma grandissimi attori, cast stellare, produzione bellissima cinematografica e successo strepitoso. Una degna sigla per un degno, per una degna serie televisiva veramente spettacolare. Io ero innamorato, vabbè, ma non si poteva, non può non piacere proprio per il fatto che è veramente una produzione di quelle che dici non hanno sbagliato niente e quindi no. Non puoi dire che sia brutta, non riesci anche, bello, anche a vederla adesso a 40 anni di distanza eppure la trovi godibile e assolutamente televisivamente valida. Quindi, tra l'altro nel disco degli Oliver Onion, quello l'ultimo, non c'è questa ma c'è la versione originale sempre con riarrangiamenti molto moderni con la collaborazione di Claudio Baglioni e devo dire insomma funziona molto bene, bello proprio come tipo di lavoro che hanno fatto. Assolutamente. E mi ricordo che nel disco nuovo c'è Banana Joe cantato da Bud Spencer, cioè direttamente da Bud Spencer. Loro raccontarono di quando riuscirono molto faticosamente a portarlo in sala di registrazione a suo tempo, e quindi loro avevano questa traccia incisa e l'hanno utilizzata per il nuovo disco. Tra l'altro è veramente commovente anche come cosa, perché cioè si sente proprio l'amore e l'amicizia che c'era all'interno di queste produzioni, perché questi hanno passato una vita insieme a fare sta roba, si sono pure divertiti alla fine, penso. Vabbè, la seconda degli Holy Wars che avevo messo, l'avevi accennata prima, era Orzo Way. Orzo Way, però, che già noi in Lombardia diventava Orzo Way, Polenta Osei, Polenta Osei. No, da noi diceva Orzo Way, mando vai, vabbè, però anche se non funzionava bene. Però devo dire una cosa, tu dici la stai trattando un po' così, perché mentre che per Roberto, insomma, la canzone Mon Precien Vivrà praticamente è secondo lui la più bella canzone degli Arrivali Ironion, per me è Sandokan, secondo me invece è proprio Orzo Way, perché non solo è una bella canzone, tra l'altro nel disco nuovo c'ha un riarrangiamento pauroso, io la sento e mi commuovo, ragazzi, cioè è una cosa un po' strana, c'ho dei disturbi psicologici io, quello sicuramente, però io la sento e la risento e mi commuovo, cioè a me questa canzone da ragazzino mi faceva impazzire, cioè mi emozionava proprio, più di quanto magari mi posso ricordare Orzo Way stesso, mi ricordo la canzone, cioè è bella perché evoca proprio un senso. Io Orzo Way mi ricordo solo Orzo Way che corre e basta nella scritta. E vabbè, qualcosa insomma. Orzo Way, Polenta Osei, Polenta Osei. Sei proprio becero comunque. Vabbè, che c'è dopo? Dopo ci avevo messo Uobinda, ve lo ricordate Uobinda? Assolutamente il Tarzan, no. il finto Tarzan degli anni 60. Vabbè, la sigla però fu anche quella Uobinda, una sigla ricordabilissima, non, se la metti te la ricordi, Uobinda sigla integrale, U doppia in fondo. Allora, Uobinda, non ce l'ho. Uobinda. No, aspetta, ho sbagliato. Doppia O. Oh, oh. Aspetta. Che cazzo, no, P. Oh, oh. Ok. Io questo non mi dice niente, devo dire la verità. Aspetta che inizia il ritornello. Due cacciatori spiano. Non te la ricordi? No, corre in canguro che giocano fra loro. Vabbè, oh. Succede. Vabbè, succede. Comunque erano ancora anni 70, 78. Qua siamo alla fine degli anni 70. Vabbè. Dimmi. Uobinda. Aiutalo! No, allora. Era una specie di Tarzan, pratica. Comunque, no, non mi proprio niente, sai. Tu te lo ricordi? Me lo ricordo, ma molto vagamente. Molto vagamente. Comunque, arriviamo all'intro, all'infornata che ho messo degli anni Ottanta, perché qui sono passato agli anni Ottanta e ho fatto pa pa pa pa pa pa, vabbè, quindi, dietro l'altro. Quindi ne sentiamo una in rappresentanza di tutti, guarda. Cioè, no, ce n'è un'infornata, ce n'è 5, 6, 7, 8, 9, 10, mettile un po' così, dai. Quanto te faceva tenerezza? Super Pacchiaro. Quanto te faceva tenerezza? Bellissimo, mi piaceva. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Allora, ricordiamo che questo era un tizio che a un certo punto da un UFO riceve un costume da supereroe col manuale che lui perderà più di una volta. E quindi niente, lui doveva fare il supereroe, ma non era buono a gestire sto... Non sapeva volare, atterrava male, faceva casino. Vabbè, comunque tipo telefilm degli anni 80. E poi c'era lui, cioè quello che con stuzzi cadenti e un po' di tartaro di denti. Il titolo della sigla mi ricorda Davide Gatti, perché sembra di vedere il suo podcast di Luca Salda. Tira i telefilm. Esatto. Lo dovrebbe mettere Davide, prenditi la sigla di MacGyver. Esatto. Mettila. No, tra l'altro, cioè, veramente lui con uno stuzzicadenti e un po' di tartaro per i denti costruiva una bomba, insomma. Esatto, è quello che fa Davide nel però non costruisce. No, era originale, era carino, originale, era carino. Hanno fatto un remake ultimamente che pare che sia stata una porcata, quindi insomma confermo, l'ho visto e non mi piaceva per niente. E poi vabbè, questo la sigla se la ricordano tutti, dai su. Sì, se parte magari today still wanted by the government they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Chi tra di noi non ha canticchiato queste note quando tentava di fare un'impresa? Ma che scherzi. Andiamo. Assolutamente. Ricordiamo gli A-Team. Era praticamente questo gruppo di militari scelti, di Marines, penso, o dell'Aeronautica, non ricordo bene, che però erano diventati dei rinnegati per ragioni. Roberto, che... forse se lo ricorda meglio, Roberto. Così. No, niente. Dell'esercito. Che erano diventati dei rinnegati e quindi continuamente ricercati dalla polizia militare per un reato che non so bene, non ricordo, e loro ovviamente in clandestinità aiutavano la gente poi fondamentalmente. E ricordiamo che è il telefilm dove si spara di più in assoluto ma non si versa neanche una goccia di sangue. Questa è una cosa che sancisce il miracolo della bontà e della bontà. C'era Hannibal Smith, Sberla, grande, sì, Matt Murdock. Murdock il pazzo. C'erano una volta tre ragazze che frequentavano. Scusate, ma io sono andato avanti nel frattempo. Sì, no, vai veloce, che ce ne sono, ripassiamo uno dietro l'altro. Erano anche molto carine. Molto carine. Erano sempre carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io ne ho preso la brunetta e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie. Che poi questo Charlie non si è mai visto, però. No, mai, no. Si vedeva solo il microfono e basta. C'era il pizzo lì, no, questa boss. Io ero orgoglioso che si chiamasse Charlie, visto che mi chiamo Carlo, ed ero contento che si chiamasse Charlie, quello che comandava le tre gnocche. Ti accontenti di poco, sì, però non le vedeva mai, quindi c'era basta. Esatto, e loro non vedevano lui, quindi insomma sai che e telefilm non si vedeva proprio. Tra l'altro Charlie Sanchez non mi ha mai detto niente, devo dire la verità, non è che lo vedevo, però non me ne fregava un cazzo. E invece, secondo prego. Ma mi piacerebbe, la brunetta è più che fare a fosse. Sì, per carità, però ti ho detto, poi alla fine adesso c'è un vero e proprio mito degli anni Ottanta, sì. Ma un mito vero. Tre note e lo dai subito. Kit, il nostro mitico supercar, che solo in Italia si chiama supercar chiaramente, perché Daniel Knight esatto. The Knight Rider e, insomma, con David Hasselhoff che è un pupazzo, cioè in realtà lui è un cantante, avrebbe dovuto continuare a fare il cantante, però devo dire che ha avuto l'onore di essere abbastanza autoironico negli anni. Sì, è vero. Tra l'altro David Hasselhoff è nel disco degli Orion, l'ultimo disco, quindi insomma, no, è simpatico. No, pure sì, si è sempre preso in giro anche lui abbastanza volentieri, ecco, non è mai stato uno che è un repubblicano della merda, però insomma, schiavo comunque della chirurgia plastica, perché poi si è rifatto e strarifatto. Ma quello pure, però non è simpatico pure prima, però era un repubblicano del cazzo, quindi insomma alla fine questa invece l'abbiamo messa Street Hawk. È bellissima questa. La sigla è molto bella, Il Falco della Strada, anche se in realtà il telefilm non ebbe un grande successo. Era un po' la versione di Supercar con la moto, in pratica. Bellissima. Però la sigla era dei Tangerine Dream ed era molto carina come sigla. Devi mettere, non l'hai messo, anche quello dell'elicottero c'era pure, che era bello. Ah sì, era Riptide. Eh? Riptide era la serie del. No, Riptide era la barca. Riptide era la barca. Era la barca? Sì, quella con il pupazzo meccanico. Quella dell'elicottero era oddio, aspetta, Mesh. No, Mesh era guerra del Vietnam, sì, giusto. Comunque poi abbiamo Typhoon and Simon. Era Airwolf, non ricordo. Vabbè, passiamo a delle sigle, anche queste mie, perché sono serie che mi taglia. Aspetta Carlo, aspetta, perché se tu mi parli sopra mentre che io non ho ancora abbassato, mi devi dare il tempo. Prego. Di fare le cose. Io non ho 14 mani, vai. Prego, parlavi, dicevi. Vabbè, bello, anche Simon and Simon mi piaceva. Era carino, molto sì. Però adesso arriviamo a un'altra serie mitica, veramente, che mamma mia, tutti, guarda. Posso dire mamma mia? Mamma mia, dillo pure. Che palle. Vabbè, però aveva un suo perfetto. Sì. Mare profumo di mare. In fondo tutti ci abbiamo sognato almeno una volta con una puntata che... è colpa del mare, del cielo e del mare. Che alla fine si scopre che alla fine Carlo è un romanticone. Io confesso qualche puntata di averla vista. Ma sì, la vedevamo tutti. Alla fine Capitano Stupid. Esatto. Capitano Stupid. Esatto. E poi ragazzi c'è un'icona degli anni 80. Questa è la versione cantata in italiano, tieni. Sì. J.R.U. nella famiglia. Come gare di rodeo. Schifo, in italiano. Le stelle nel blu e fumo di rivoltelle. Come grande ma come grande. Come grande la me. Dallas. Diciamo una cosa su Dallas, la dico al volo, sì. Che Dallas nacque come serie anche molto seria, no? In un certo punto di vista, che raccontava una determinata situazione, determinati contesti, ovviamente del mondo dei petrolieri, no? E via dicendo. Tra l'altro, se voi ricordate, la prima e la seconda stagione non è che c'erano tutti questi grandi episodi. La sigla originale americana. Poi la serie passò a Mediaset. Sì. E divenne una soap opera a un certo punto. Cioè, vi ricordate che c'è questa transizione? Sì. Dove a un certo punto i personaggi morivano e risuscitavano anche. Esatto, erano i primi zombie. Queste cose impossibili. I primi zombie che risuscitavano. E poi un tizio che praticamente si ripassava tutta la parte femminile della famiglia, compresi gli avi, le nipoti, le amiche, che sposava tutti. Insomma, poi divorziava. Era un prototipo di Beautiful, poi. Sì, in effetti all'inizio poi Beautiful in quegli anni iniziò comunque ad avere un discreto successo negli stessi anni di Dallas, solo che Dallas a un certo punto è finita, Beautiful ha continuato per 40 anni. Se tu consideri che Sentieri è durato 60 anni, Ridge era a figlio, perché si è sposato tipo 8 volte durante Beautiful. Comunque vabbè, il fatto che è passata da una serie seria a una soap opera ha un po' fatto dire, però insomma chi invece... riconosce questa sigla, dai, su Simon Templar, o meglio Roger Moore e Tony Curtis, bellissimo. Roger Moore e Tony Curtis, attenti a quei due. No, qua è il santo, scusa, hai messo la sigla di santo. No, attenti a quei due. Persuaders. Ok. The Persuaders in inglese, bellissima. Ho messo poi anche la colonna sonora del santo di Simon Templar. Anche quella hai messo, sì. E allora che vuoi? No, niente, era perché erano due serie che sono, a parte l'attore. Comunque, anche questa è iconica, eh? Anche Simon Templar, ragazzi, è un pezzo di iconica. Noi la chat non ce la siamo inquadrata per niente stasera. Credo che non abbiamo scritto. Troppo concentrati. Penso che non abbiano manco scritto niente, forse non ci hanno manco ascoltato. Chi se ne frega. Infatti. Get Smart, io non so cosa sia. Get Smart era la presa in giro di Simon Templar alla fine, se vogliamo stringere. Infatti anche la sigla era abbastanza ispirata musicalmente, ma Get Smart era una serie. Senti che la sonorità è simile. Sì, lo riprende. Sì. Vabbè, era una serie comica, esatto, era la presa in giro delle spie ed era fatta, era scritta da Mel Brooks. Get Smart è incredibile, se non l'hai vista Simone guardala, lui era agente 86, no forse era la gente 99 che era la sua partner era 99. Poi c'è un capo, esatto, c'era i cattivi che sono del caos e loro sono del control che non vogliono dire niente e poi vabbè trovo lì, cioè nel senso trovare delle definizioni iconiche tipo che ne so il cattivo è il Mister X, no? Queste cose no. Così sono. Le icone di Get Smart era una, il primo che aveva il telefono, però con, come si chiama, con il combinatore nella scarpa. Sì, è vero. Lui toglieva il tacco, poi doveva fare il numero con i numeri, col dito. Troppo forte. Comunque c'era, faceva veramente ridere, io me la ricordo. Eccezionale, quella sì. Mel Brooks era, all'epoca era ancora in stato di grazia. Poi ho messo un fuoriserie. Perché fuoriserie? Perché si tratta di un telefilm, ma di un telefilm giapponese. Da noi i telefilm giapponesi, le serie TV giapponesi sono arrivate spesso di riflesso, cioè rimbalzando dagli Stati Uniti. Questa invece arrivò, fu una delle poche dell'epoca, qualcuna arrivò in maniera diretta dal Giappone a noi, e forse questa è la più famosa di tutte. E la sigla è qualcosa di assolutamente iconico e eccezionale. Megaloman. Megaloman. Mai sentito? Gli eroi fecchi, Megaloman. Tabula rasa per me, guarda. questa in realtà, almeno io me la ricordo come un successo clamoroso. Da noi a scuola la vedevano tutti Megaloman, ma tutti. E arrivavi a scuola e i ragazzi dicevano fiamma di Megalopoli e muovevano la testa lanciando ovviamente. È possibile che sia andata solo al nord, non lo escluderei. Potrebbe essere, perché visto che Simone la conosce, noi sì. No vabbè, io non faccio testo però perché io tanta roba non mi affezionavo e quindi l'ho dimenticata poi magari se vedo le immagini su YouTube ma la ricordo e l'ho vista, cioè la sigla non mi dice niente. Era lui, era in un tizio giapponese che metteva questa tutina e da piccolo diventava alto 20 metri con i capelli lunghi bianchi e una maschera Sì me lo ricordo, perfetto, me lo ricordo. E quelli che combattevano in mezzo alle scatole delle scarpe per capirsi, insomma. Esatto. Sì ho capito, vabbè, no allora me lo ricordo. E la sigla era famosa che faceva appunto Megaloman. Devo dire che c'era un'altra serie giapponese incredibile che c'era negli anni 70-80, non so se te la ricordi, quella del samurai che andava in giro col ragazzino dentro al carrello della spesa. Itto Ogami. Non era già la serie era americana in realtà quella. Sì. Sì, era con un protagonista giapponese, ma la serie era americana. Era ambientata nel Giappone medievale, cioè quindi. Sì, ma se non sbaglio, adesso magari mi sbaglio di questo dicendo una minchiata, ma esatto. No, ma io ci credo che è americana, soltanto che mi ricordo sta cosa che era fighissima perché c'era proprio lui che. Questa invece, Megaloman, era proprio una serie giapponese made in Japan, arrivata direttamente in Italia durante il boom dei cartoni robotici giapponesi in Italia. La serie che dice è Samurai, lui era Itto Ogami, se vuoi te la passo anche quella piratata, ma non si può dire, quindi non l'ho detto. No, ma guarda, a parte che si trovano, perché si trovano? No, diciamo che non mi c'è. Cioè, sì, forse quella mi ci rimetterebbe, perché lei comunque era particolare, perché poi lui che cercava di proteggere sto ragazzino, non so dove doveva andare, poi era de una brutalità, lui della grande. Andava in giro con una culla praticamente. Sì, guarda che recentemente c'è stata una serie molto famosa che abbiamo visto tutti, che era ispirata a questa, una serie di fantascienza che abbiamo visto l'anno scorso. Adesso mi cogli impreparato. Cioè, Mandalorian. Ah, che è ispirato, tu dici addirittura. Sì, assolutamente. Lo richiama, sì, però è ispirato. Nulla, Far West. Vabbè. Sì. È così. Ci sono tantissime similitudini. Va bene, adesso per concludere ho messo solo due telefilm degli anni 90 perché vi ero rotto un po' il palle di scaricare MP3. Infatti cioè io non li metterei neanche, però, ne metterei solo uno, bene, di due. Ne metterò la mettili tutte e due, dai, così chiudiamo con questi due. Buonanotte. Allora. Il primo sicuramente Tre Notte lo riconosci, dai, il primo Tre Notte. Io li conosco tutti, cioè nel senso, cioè, soprattutto aspetta, prima metto questo. Aspetta, abbi pazienza perché e qua siamo negli anni 90 quando c'è questa transizione appunto tra chiamarli telefilm e iniziarli a chiamare serie TV. Ma aspetta, però succede in questo periodo qua. I want to believe, sì, esatto. Aspettate, I want to believe. Non so perché, ma è impazzito qualcosa. Il computer, ovviamente, perché è ora che qualcuno me ricompri uno con un computer. X. The X-Files c'è scritto The okay. THE. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. E vi sembrerà incredibile, ma ce l'ho fatta. E anche qua Tre Notte in Ligona proprio, sì. Questa serie è croce e delizia della nostra generazione, perché io la prima serie l'ho amata in maniera viscerale, poi dopo negli anni ovviamente io ti devo dire la verità, io ho amato tutti i lungometraggi, cioè tutti i pilot, tutte le puntate speciali, so quello che era quel filone del blocco narrativo dedicato agli alieni, perché le puntate agli alieni, le puntate in sé della serie non è che mi facevano impazzire, devo dire, cioè io devo dire calava di qualità in un modo incredibile, cioè nel senso però quello è vero, c'erano alcune puntate un po' veramente riempitive, però devo dire che la prima serie ha mantenuto una qualità alta, è scesa dopo credo, almeno per quello che posso ricordare io, però veramente all'inizio mi piaceva tantissimo, poi dopo devo dire che negli anni è peggiorata molto, anche perché poi si rivelava inconcludente a un certo punto, cioè non arrivava al dunque, al punto, no? Cioè sì, lasciava questi enigmi aperti, poi diciamo, all'infinito, diciamo che ha amplificato un fenomeno che già esisteva, che era quello dei certi complottismi, perché io poi alla fine parlavo con gli amici miei e c'era cioè, gente ci credeva a sta cosa, perché loro ci nascondono, loro non ti dicono, loro ti fanno sparire, ma loro chi sono loro? Non lo dicono più, non lo dicono, no, adesso lo dicono peggio. Adesso abbiamo la Cunian che va in Parlamento a dire queste cose, quindi comunque no, oggi l'hanno buttata fuori di nuovo. Sì, sì, hanno fatto bene. Ci credo. Hanno fatto bene, secondo me. Se esistesse un decreto costituzionale che la privasse dei suoi diritti parlamentari, sarebbe anche, però poi sarebbe un brutto precedente, insomma, diciamo così. E invece poi c'è, secondo me, un momento in cui la televisione ha raggiunto il momento più alto e che non fu mai raggiunto, perché quando il cinema d'autore incontra la televisione in uno dei progetti più sperimentali e assurdi che siano mai stati fatti, perché e anche qui cioè ragazzi tre no. Due note sono tre. Ma pure una basterebbe una, a parte il suono del basso, ma poi c'è tutta così, basta, tu questa è un logo, questa non è una musica, questo è un logo, cioè sì, è una serie meravigliosa, ragazzi, che ci ha tenuto incollato a tutti con un trip incredibile, un lavoro psicopatico, scervellotico di David Lynch che ha dato veramente il meglio di sé utilizzando la televisione in un modo che nessuno aveva mai utilizzato, perché cioè la sperimentalità di questa serie e questa sua capacità di andare oltre qualsiasi stilema della televisione è stato forse un momento incredibile. Anche qua io mi ricordo proprio che il giorno in cui c'era Twin Peaks tutti fuori di casa, io e mia madre davanti al televisore a guardasse sta cosa che era bellissima. Chi ha ucciso Laura Palmer? Chi l'ha ucciso Laura Palmer, esatto. Devo dire la verità che David Lynch nella sua riproposizione della terza stagione di Twin Peaks, che è andata insomma un paio d'anni fa, devo dire avrebbe potuto essere un disastro incredibile, secondo me è una serie che va molto oltre rispetto a Twin Peaks, va proprio fuori di testa a un certo punto. E io mentre che la guardavo vedevo David Lynch che rideva, cioè lo vedevo che stava lì, che si stava che si stava divertivo un po' in culà. Guardate che cazzo, cioè, ci sono delle puntate, ragazzi, di uno psichedelico infinito che mi ricorda i film, i cortometraggi sperimentali degli anni 70, quelli tutti psichedelici, tutti assurdi, roba genere. E lui questa roba te l'ha portata in televisione, cioè nel posto meno autoriale che possa esistere, cioè più commerciale del mondo, lui te l'ha schiaffata là e rideva mentre io lo faceva, secondo me, perché si è divertito. È una bella immagine, una bella immagine. Sì, infatti subito dopo ha fatto uscire quel bellissimo cortometraggio in bianco e nero di lui che parla con una scimmia sul treno, cioè ragazzi, no, ma io avrei pagato io per fare le cose che ha fatto David Lynch, cioè anche cose brutte, perché per carità non è che ha fatto tutto, certo, tutto perfetto, però è stato un grande, è un grande, insomma, però insomma oramai penso che difficilmente li vedremo fa altre cose, insomma, altre cose sicuramente. Niente, ci sarebbe il pezzo di Davide, sì, se lo ritrovi e se sì, lo ritrovi, sì, no, lo ritrovo mentre tu fai intanto una conclusione. Il conclusivo hai saltato quelli i polizieschi. Ne ho saltati mille, Roberto. Oh, già, in realtà ho fatto una selezione, sì, su quella. I polizieschi se meritano un capitolo pure quelli, ragazzi. Sì, no, è vero. Se ne le strade della California. Avrò saltato 100 sigle importanti, ma non potevo metterle tutte. E queste sono quelle, non l'ho fatto apposta, diciamo, sono quelle che sono venute in mente. Quindi non c'è stato un lavoro di selezione. Sì, a voglia, perché dove fai i polizieschi e poi i cartoni animati, ma pure sui cartoni animati secondo me ce ne sarebbe da parlare. Esatto. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa, siccome l'intervento di Davide dura praticamente più di 7 minuti, io direi che ci possiamo salutare. Ci salutiamo, sì, nel senso, facciamo una conclusione, così voi siete liberi di andare, io rimango qui insomma fino a che scorre e magari poi l'ascoltate oppure volete rimanere e poi lo commentiamo, non lo so, perché 7 minuti io rimango, dai, okay, dai, vabbè, dai, allora, dai, dai. Ce lo ascoltiamo un attimo e via, però non parte, non so per quale ragione, adesso c'è sempre l'imbarazzo, ricordate queste cose. Allora, mostra nella cartella e fallo partire così. Vediamo un po'. Insomma, così dovrebbe partire. Ah, certo. Eravamo futuro. Ecco. Come tutti gli anni, questo è un periodo un po' difficile, soprattutto un po' per lo stomaco, se vogliamo. Infatti, cominciano le scene aziendali con i colleghi, con gli ex colleghi, con gli amici, con gli ex amici, con i parenti. Ogni scusa è buona per fare una cena di Natale o qualcosa del genere. Ah, vediamoci prima di Natale. Sì. Ecco, e praticamente tutte le sere c'ho una cena organizzata, che poi organizzare queste cene è un casino perché siamo in 20 e arriva uno, ci sono domani, insomma, quando siamo già più di 5 è praticamente possibile organizzare, cioè diventa un casino. Alla fine è capitato che dopo tira e molla è capitato di giovedì, e forse capiterà anche altri giovedì o per qualcun altro di noi quattro capiterà giovedì, e quindi è probabile che insomma ci si senta in qualche modo diverso o ci si senta in orario e in date diverse, ma va bene. E quindi è cominciata ufficialmente la prova costume alla rovescia, cioè in pratica noi stiamo cominciando a fare i test per poi superare quello che è il Natale vero e proprio, quindi con le cene, con i parenti, con roba infinita da mangiare. Ci stiamo facendo la prova costume al contrario e cerchiamo di allenare lo stomaco per questa dura battaglia che dovremo affrontare tra poco. Detto questo, stasera, appunto, per queste complicanze organizzative non sarò qui con voi, ma sarò qui presente appunto con questo messaggio, e voglio dare anche il mio piccolo contributo molto breve e veloce per quello che sono state per me alcune delle serie TV, dei telefilm che in qualche modo hanno segnato un po' non tanto la mia vita, ma hanno segnato sicuramente le mie nottate che passavo a lavorare, a imparare, a scoprire il computer, l'elettronica e tutto il resto, e chi mi faceva compagnia era questa TV accesa che sempre mostrava in loop telefilm su telefilm su telefilm, e ne ho visti tanti tanti di tanti tipi diversi, ma sempre guardati un po' col pelo dell'occhio, mentre l'attenzione era diretta altrove. Quindi era una compagnia, non li guardavo con attenzione, era una compagnia, e quindi era come avere degli amici che mi accompagnavano e stavano lì con me la sera, e io li guardavo e li osservavo. Molte di queste serate le ho passate davanti a un Commodore 64 o un'Amiga, e quindi mi ritengo anche fortunato. Pensate a quelli che passavano queste nottate con uno Spectrum. Bah. Vabbè, comunque, detto questo, non voglio parlarvi delle serie che più mi sono piaciute, che più mi hanno entusiasmato, che più ho seguito, perché qui giochiamo troppo facile. Credo che ne parleranno abbondantemente tutti i miei colleghi, e forse ne parleremo addirittura in puntate dedicate. Quindi voglio escludere i vari Star Trek, TOS, TNG, Spazio 1999, UFO, insomma tutto quello che è fantascienza, perché obiettivamente erano le mie serie preferite. Però voglio parlarvi di alcune serie minori, ma che però qualche modo mi hanno veramente accompagnato e mi hanno reso le serate, a volte anche sono riuscito a distrarmi da quello che era il lavoro che stavo facendo. Quindi magari stavo lavorando al computer, ma mi distraevano un pochino e le guardavo. La prima di cui vi voglio parlare, che forse non ha avuto neanche tantissimo successo, o comunque è stata dimenticata e che se ne parla poco, ormai non la farò neanche più vedere, che però per me è sempre stata abbastanza interessante, è un telefilm che si chiama Quincy. È un simpatico patologo che ci spiegava con un modo molto entusiastico, affabile e affascinante a volte, i motivi di un efferato assassino, o di una catastrofe sanitaria, o di un'epidemia, insomma di cose bruttissime. Lui però le scovava, le trovava e ce le spiegava in maniera simpatica e allegra. Davvero un peccato appunto che a un certo punto, non so quando, io mi ricordo di averle viste in quei periodi là, negli anni 80, e poi a un certo punto scomparso, ma non è mai stata più riproposta. Quindi sentiamoci la sigla di questo telefilm per rievocarla un po' e ricordarcela tutti assieme. Gentlemen, you're about to enter the fascinating sphere of police work, the world of forensic medicine. Infine vi lascio con un altro contributo di un'altra serie che mi ha fatto veramente passare tante nottate in allegria, con una comicità semplice, veramente alla portata anche di chi era distratto e che stava facendo altro. Queste voci che accompagnavano e che bastava quasi ascoltarli, non serviva guardarli, perché comunque le battute erano più che altro recitate, quindi anche forse un gran lavoro di doppiaggio, perché comunque ricordiamoci che le commedie comiche americane ovviamente hanno la comicità americana, e quindi fare in modo che poi diventino comiche anche in italiano ci vuole un gran lavoro di traduzione, di sistemazione di quello che sono i dialoghi, perché comunque in questo caso specifico devo dire che comunque un buon lavoro c'è stato anche. E se lo guardassimo oggi magari sarebbe un po' ridicolo, non nel senso che fa ridere, però diciamo sembrerebbe brutto da vedere magari. In realtà all'epoca era comico, mi faceva ridere, mi piaceva, mi faceva compagnia e gli volevo bene. E parlo di Tre cuori in affitto. Anche questa serie è una di quelle che fondamentalmente è scomparsa, se vogliamo. Si è vista in quegli anni, forse si è vista poco, pochissimo, in qualche anno successivo, per poi sparire praticamente per sempre. Io non l'ho mai più rivista da nessuna parte, quindi davvero scomparsa, insomma. Quindi sentiamoci la sigla di questo telefilm. Come and knock on our door. Come and knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. Where the kisses are hers and hers and history's company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor. Take take a step that is new. People of a whole space that needs your face. Three's Company too. Bene, io con questi due piccoli contributi vi saluto e vi lascio nelle mani dei miei colleghi che vi racconteranno le loro vicende, i loro motivi per i quali vi faranno ascoltare le loro sigle. E quindi vi saluto e ci rivediamo al prossimo appuntamento di Quando Eravamo Futuro. Ciao ciao da Davide Gatti. Bene, bene, bene, in realtà l'abbiamo già raccontata, quindi abbiamo fatto sentire questa cosa in coda proprio, sì. perché collocarla in mezzo alla puntata sarebbe stato un po' più complicato, e il pezzo, il passaggio in cui lui dice sarò breve ha fatto ridere tutti, penso, insomma, saremmo tutti per terra a ridere, perché allora qui ci ha raccontato prima i cazzi suoi, giustamente, però ci sta, è stato molto carino come tipo di intervento. E poi abbiamo scoperto che esce con gli ex amici. Con gli ex amici? Quindi... No, comunque ha messo Quincy, che era una delle sigle che sicuramente avevo dimenticato. Assolutamente, nel che tra l'altro a me piaceva molto, anche a me, per quanto assurda, perché chiaramente un patologo legale che si mette a fare l'investigatore era proprio assurda. c'è stata una puntata che penso che, vabbè, oggi sarebbe impraticabile, dove lui a un certo punto non si spiega una cosa che vede all'interno del corpo del tizio, cioè mette il dito dentro, l'assaggia e cioè, succo d'arancia, una cosa del genere, insomma. Ma dov'è che lo mette il dito? Dentro il corpo, però non importa da dove. Okay. E quindi si faceva queste cose un po' fuori da testa. C'era il suo assistente giapponese, vuoi ricordare? Vabbè. Dai ragazzi, comunque è stata una puntata carina. Sì, assolutamente. Ci rincontreremo per il terzo episodio e poi probabilmente il quarto, il quinto. Sì, no, già abbiamo detto che ci sono due approfondimenti verticali che saranno quelli dedicati a Doctor Who e a Drive-In. Ai confini della realtà. Okay. Allora abbiamo Drive-In, Alex Raccuglia come ospite, Doctor Who ovviamente. Abbiamo l'altro ospite. E poi sì, Twilight meriterà ovviamente una puntata a parte. E invece, penso la prossima settimana / prossima puntata toccherebbe a Roberto, però Roberto la prossima settimana non c'è, quindi saltiamo una settimana probabilmente, insomma, vediamo, dai, mo vediamo. Anch'io la cena degli ex amici. In chiusura ricordiamo che su Archeologia Informatica stiamo di nuovo, il canale YouTube, stiamo iniziando di nuovo a pubblicare contributi importanti. Abbiamo appena pubblicato una conferenza recente che ho fatto insieme ad altri personaggi che trovate sul canale YouTube. E adesso uscirà finalmente a brevissimo l'intervista Tomcic, che è già uscita in podcast, a Tomcic, in versione video, e quindi questa poi la vedremo sul canale. E poi con ci saranno... l'aggiunta di importanti e fondamentali footage 3:40x2:60 di risoluzione, però vabbè. Diciamo gli amici italiani, allora, per motivi che non stiamo a dirvi, ma sono di bassissima lega, intanto facciamo uscire l'intervista, dopo pochissimo vi garantisco arrivano anche i sottotitoli in italiano. Ok. E poi dopo ci saranno gli interventi da Brusaporto, ripresi con le cose che abbiamo mostrato a Brusaporto. E infine a gennaio avremo il mega speciale di cui abbiamo già pubblicato il trailer. Sì. Simone, puoi annunciarlo tu, il documentario. Siamo andati, come già vi abbiamo annunciato, ad Avezzano, al Museo dell'Intrattenimento Elettronico, e abbiamo fatto questo mini documentario che racconta ovviamente della storia del museo stesso, e in più ovviamente delle pietre miliari, insomma, all'interno del museo stesso, di cui alcune anche delle unicità importanti, come pezzi che, fantastico, per vederli accesi forse vi converrà in tutto il mondo venire lì, insomma, ad Avezzano. Detto questo, il trailer mi ha fatto molto piacere, perché è praticamente esploso, ha avuto, per essere un trailer, ha avuto un sacco di visualizzazioni, certo. Quindi vuol dire che c'è molta attesa per questo tipo di prodotto, e quindi ci dobbiamo sbrigare a farlo il meglio possibile, perché se viene poi un po' schifo. È la puntata natalizia di Carlo Sant'Agostino, non la vogliamo ricordare, farà sicuramente. Sì, no, riproponiamo perché, quella dell'altro anno. Perché dici che devo fare la puntata natalizia? Riproponiamo quella dell'altro anno, che ha parlato della demo natalizia del Commodore 64. Andiamo in replica. Sì, la ricarichiamo. Vedete, c'è un video nuovo. Ma come, questo è quello dell'altro anno? Vabbè, comunque, ragazzi, si lavora e poi quando eravamo futuro torneremo. Insomma, adesso vediamo un attimo, perché veramente mo ci approssimiamo alle feste natalizie. A differenza dello scorso anno, probabilmente sono delle feste natalizie che passeremo in condizioni semi-normali, diciamo, la maggior parte di noi. E quindi chiaramente il podcast e la radio subiranno un po', un minimo, insomma, dei ritardi, insomma, delle dilatazioni. Questo è abbastanza inevitabile, per quanto noi continueremo a dare sempre il nostro impegno, perché come sapete Runtime Radio oramai trasmette live tutti i giorni, almeno una volta al giorno. Noi apriamo tutte le mattine della settimana alle 7 con una live, il lunedì, il mercoledì e il venerdì c'è il mattino loro in podcast Leo Vargion, il martedì c'è Michela con Disordinati Informati, giovedì ci sono io con Buongiorno Un Cazzo, e poi anche il sabato dalle 8:30 alle 9:30 io e Michela facciamo Disordinati Informati che incontra Buongiorno Un Cazzo, una sorta di crossover, e facciamo questa cosa un po' più simpatica, diciamo, il sabato per aprire le giornate. E poi ovviamente c'è Quando Eravamo Futuro il giovedì sera e OGM il lunedì sera, e più qualche altra live che capita di qua e di là, più tutto il resto della programmazione. Quindi Runtime sempre più live, sempre più radio, insomma, diciamo, tutta caruccia e pettinata, cerchiamo, insomma, di portare questa radio sempre in primo piano, e con tutti il resto dei progetti collaterali come Archeologia Informatica, il canale YouTube anche di Davide Gatti e via dicendo. Insomma, stiamo cercando di creare sempre contenuti, siamo sempre qui con voi, quindi se vi capita andare su www.rantameradio.it e cliccare sul pulsante Anch'io, ricordatevi che lì potete fare una donazione o una tantum su PayPal oppure ricorrente su Patreon, e insomma noi vi saremo grati, perché chiaramente, come sapete, niente è gratis a questo mondo, e sostenere il progetto significa permetterci di pagare ovviamente tutte le infrastrutture che ci sostengono, giusto Carlo? Giusto. Anche Roberto, vuoi annunciare qualcosa o il tuo podcast è ancora zombie, ritornerà il suo podcast, ritornerà. La barba è bionda. Giustamente. Va bene, no, non è morto, ritornerà quando un po' di tempo. Ricordiamo, era Delenda Cartago. Delenda Cartago, e va bene, poi hai già ricordato il canale di Davide Gatti YouTube, ma anche il podcast di Salvavai Lacking, sempre, esatto, di Runtime, esatto, Radio. Bravo. Lo trovate nel nostro canale, ovviamente su Spreaker e su tutte le piattaforme di streaming. Esatto. Infatti vi ricordo che tutti i nostri podcast li trovate sui maggiori aggregatori client possibili e immaginabili, da Google a Spotify a Spreaker a iTunes e via dicendo, insomma. Detto questo, però, se vi iscrivete sui canali YouTube meglio, così sì, iscrivetevi sul canale YouTube, attivate la campanella, così ogni volta che arriva un video lo sapete, lo guardate, e noi guadagniamo 0,20 centesimi forse. Non lo so, mi è arrivata una mail dove dice: questo mese hai guadagnato 3,40 euro. Insomma, bellissimo, siamo ricchi. Grazie YouTube, grazie la tua online, incredibile. Va bene, dai ragazzi, grazie di tutto, ci vediamo presto, e continuate a seguire Runtime e soprattutto sostenere il progetto. Ciao a Carlo Sant'Agostino, ciao a tutti, buona serata, e ciao a Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto, che sarà già addormentato. Ciao, buonanotte. Notte.